è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Cos'è questo Movimento 5 Stelle dopo il fuori onda del signor Favia? Cos'è, una setta? E perché si stupiscono? Perché si stupiscono gli eletti e i militanti del Movimento 5 Stelle quando il loro dirigente, il loro capo è uno che fa italiani? È uno che fa così, è un movimento carismatico nato per Grillo e morirà con Grillo. Oltre a Grillo e alla organizzazione, direi eccellente fino a questo momento, del signor Casaleggio. Cosa c'è nel Movimento 5 Stelle? Sì, certo, ci sono tanti militanti, anche bravi, eccetera eccetera, ma cosa sarebbero senza l'organizzazione di Casaleggio e senza Beppe Grillo? Sarebbero il nulla, zero. Dunque, il signor Favia, quando protesta per la mancanza di democrazia, ma perché prima che cos'era il Movimento 5 Stelle? Che c'erano le correnti della Democrazia Cristiana prima? Era diviso in correnti, c'erano le opinioni che si confrontavano, ma di cosa parliamo? Il fuori onda di Favia. Casaleggio prende per il culo tutti, perché da noi la democrazia non esiste. Grillo è un istintivo, lo conosco bene, non sarebbe mai stato in grado di pianificare una cosa del genere. I politici non hanno bersagli, non lo capiscono, non hanno capito che c'è una mente freddissima, molto acculturata, molto intelligente dietro, che di organizzazione, di dinamiche umane e di politica se ne intende. La mente raffinatissima, tutto guidato da Casaleggio. E allora? E qual è il problema? È il consulente di Grillo. Grillo si fida di Casaleggio e decidono tutto loro. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Non ci siamo. Tra gli eletti ci sono gli invitati di Casaleggio. Ah. Al di là di quelli. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a quando parliamo, sai? Loro non ci... Ma Casaleggio è spietato, è vendicativo, eh. Spietato e vendicativo, guida il movimento col pugno di ferro. E allora? Perché non lo sapevano prima? Il problema è su. È su. Quindi o si leveranno dai coglioni, oppure il movimento loro gli morirà, esploderà in mano. Ma loro stavano già andando in crisi con questo aumento di voti. Come si sono salvati? Col divieto di andare in TV. D'altra parte, lo stesso Favia parla di andare oltre alla pseudodemocrazia. Alla pseudodemocrazia. Caro Favia, sei in una democrazia, non in una pseudodemocrazia. Sei in una democrazia fatta in una ragione. Noi vogliamo andare oltre alla pseudodemocrazia, quella di delega. Vogliamo lavorare su un livello organizzativo. La Zanzara inizia così con David Parenzo, che ancora mi accompagna, cheek to cheek. Grazie di essere qui, caro David. Buonasera, signor Cruciani. Stai a marca male, come dicono a Roma. Stai perché? A marca male, a maschio. Perché? A maschio. Ti metti pure a difendere il signor Casaleggio, certo. L'Angelo Branduardi del certo, web, certo. E il signor Grillo. Il problema sono questi dirigenti del 5 Stelle, Favia, cioè, che non hanno il coraggio di dire le cose che hanno detto fuori onda. Devono dirlo apertamente, ma hanno posto una questione politica verissima nei confronti del duo Medvedev-Putin. Perché di questo stiamo parlando. Ma so che sei molto Grillo arrabbiato. E Casaleggio sono Medvedev e Putin, hai capito? So che stavi leggendo una cosa ed eri arrabbiatissimo. Scusa, sì, con ho chi? Letto questo articolo di Repubblica dell'ottimo Mauro Favale. Sì, Repubblica, sì, dove dimmi. Ci racconta del presidente del consiglio regionale del Lazio, un signore del PDL, signor Abruzzese, sì. Il quale ha 18 segretari e 9 consulenti. E nell'intervista a Repubblica oggi il presidente dice: sì, mi servono tutti, solo una parola, caro Cruciani, va rispolverato in questo caso. Una parola, Abruzzese, vergogna! È impazzito. Numero uno, Roberto D'Agostino. Roberto D'Agostino. Sobrietà, aspetta, ieri sera Roberto D'Agostino invitato a Piazza Pulita. Aspetta, Piazza Pulita. Stai a Marcamare. E dai, su, D'Agostino versus Boccia. Ma ho fatto il nome, partito... a bello di mamma. Penati, cazzo vuol dire Penati? Roberto, bello Penati vuol dire D'Agostino, qualcosa bello, però tranquilli che non siamo in un pollaio, siamo in un solo televisivo. Bello di papà, partito, scusa. Bello di papà, se avessi seguito i dibattiti... No, ascoltami, se avessi seguito i dibattiti fatti qui da Formigli, avresti scoperto un anno fa che non solo io, ma il Partito Democratico ha sospeso e preso le distanze da Penati. Litigavano su Penati, poi su Bisignani. Sentiamo. 30 secondi, poi Boccia, lei resta. Svoltati, per favore. Io chiamo Bisignani e lo dico davanti alle telecamere per avere informazioni, perché sono un giornalista, non per fare affari. D'Alema chiamava Bisignani per altri motivi. Vabbè. E quindi lasciamo perdere. Vabbè, questo però, io diciamo, sono... quando no, ci sarà D'Alema fare, glielo chiederemo, fare... perché sennò siamo nel... Ancora, continuano, D'Agostino numero uno, Boccia, è un tuo diritto. Non fare furbo. È un tuo diritto. Sei solamente un ignorante. È un tuo diritto. Va bene, però, D'Agostino. Ecco perché poi questo paese non va da nessuna parte. È un tuo diritto. Lei ha lanciato un tema importantissimo, però evitiamo di andare sulle offese. Grazie. È un tuo diritto. E ora che la finite, non puoi, non puoi. Non si capisce niente. Tanto è vero che c'è Monti. Grazie. Grazie. Non siete niente, sei un ignorante. Con Formigli che si mette in mezzo e dice pure: beh, non è un pollaio con uno show televisivo. Beh, sì, dovevo dire. Bah. D'Agostino ancora versus Boccia, sciacquati la bocca quando parli di Cossiga. Bisignani non lo Cossiga, a me che cosa vuol dire su Cossiga? E ti sto dicendo, conosci la storia, su Cossiga, devi solamente sciacquarti la bocca. Conosci la storia del paese. Ognuno si è espresso, ognuno ha detto la sua. Vi prego, Boccia, la prego. Capito? Grazie. Andrea Scalzi. E poi ci vediamo alle, come dice, poi ci vediamo alle elezioni. Vediamo a chi ancora andrà a votare. Vedremo le elezioni, abbiamo anche i sondaggi. Beh, poi c'è il top, Grillo prende più di quel di Casini, sentite, qui è il top di D'Agostino. Sempre D'Agostino. Sempre D'Agostino. Sempre sobrio, signor D'Agostino. Qui stiamo a parlare di uno scazzetto tra, all'interno di una corrente, di un movimento, che ha raggiunto nelle amministrative l'8%, più della Lega, più di quel cazzo di Casini che sembra che ogni volta viene intervistato come un dio. Beh, ma c'ha ragione. Ha ragione lui, dai, su, ha ragione lui. Casini intervistato ovunque, quello ha preso in un'elezione, ha preso l'8%. Poi se ne va, sentiamo come lo liquida Formigli. D'Agostino ha fatto l'intervento, ha detto voglio andare via. Grazie Roberto D'Agostino. No, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Com'è che ha detto? Isolate. D'Agostino ha fatto l'intervento, ha detto voglio andare via. Grazie Roberto D'Agostino. No, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. La Bindi contro un dirigente di SEL, Istituto per Eterosessuali, inventatevene uno vostro. Basta. Che battaglia. Basta Bindi, basta, inventatevene uno vostro. Ma perché? Sì. Comunque guarda, il Partito Democratico ha preso un impegno preciso, credo che sia una cosa molto importante. Però la parità dei diritti, l'uguaglianza tra i cittadini è il matrimonio, discriminazione. Io penso che un istituto che è stato pensato storicamente per gli eterosessuali potreste avere più fantasia nell'inventare uno vostro. Spieghiamolo a Obama, insomma. Un'ultima domanda. Non ho tutte queste ambizioni nella vita io. Abbiamo un ospite, un grande intellettuale. Una grande notizia intanto, che c'è? Dimmi. I tre operai dell'Alcoa sono scesi dal silos. Siamo con voi però, ragazzi, continuate a combattere per il diritto al lavoro. Dovete difendere non un posto, ma vai a Radio lavoro, Popolare a fare queste robe, ma vai a Radio Popolare, vai a Radio Radicale. È con noi Oliviero Toscani, buonasera. Va bene. Buonasera. Come stai, Oliviero? Io bene, voi? Beh, combattiamo. Lottiamo come leoni. No, vi vedo eccitati, sono al solito. Combattiamo come leoni, eccitati. Adesso noi. Ormai non ci eccita. Ormai, non ci eccita più nulla. Ormai non ci eccita più nulla. Il rosso del on air. Solo quel rosso lì ci eccita ormai. Ormai il resto niente. Tutto finito. Tutto finito. Anche tu, però, so che ormai no, hai chiuso l'azienda. Chiuso cosa? Il sesso. No, col sei finito. Vero? Mi dicono che anche tu hai chiuso, eh. Sì. Hai chiuso il battello. Hai chiuso? No, dicono perché, perché non mi sposo? Sgarbi me l'ha detto, no. Sgarbi. Vabbè, Sgarbi, poverino, cioè, lui è finito da tanto tempo. Perché dici? In che senso? Beh, lui è proprio, ho detto, coitus interrupto, non riesce proprio, non ci arriva. Ah, non ci arriva secondo te? No, no, non ci arriva proprio. Cioè, impotente, dici? Ma non ho detto questo, lo dici tu, però io si dicono che sia così. Cioè, che non proprio non fa nulla, eh? Cioè, che... Appunto, a me non me ne frega niente. Se Sgarbi è impotente, no, proprio l'ultima cosa è, no, è no, la potenza di Sgarbi. Come vedete, ultimamente la sua potenza è scatenato. È scatenato. Non è anche più intelligente, poverino, sta perdendo anche quella. È scatenato, beh, sì, dice delle cose un po', disperato. È un po' estremo. Senti, ma questo Renzi lo attaccano tutti all'interno del Partito Democratico? Viene visto è logico. Perché? È dici? Logico. Perché? Perché vincerà lui. Ma ti piace? Questo è un ragazzo con un'ambizione senza limiti, bello. Un'ambizione sfrenata, puzza di incenso perché viene dalla sacrestia. Ma che c'entra? Sì, viene da ambiente cattolico, cattolico. Vabbè, sì. Suo, cattolico, però è ambiziosissimo, sì. Ha idee chiare e soprattutto quando io sento che adesso faranno il governo ancora con Bersani, mi rimandano da D'Alema, ministro degli esteri, quell'altro di qua, dico no, basta. Basta, quindi ti piace Renzi? Renzi? Meglio Renzi. Io non voterò Renzi, non vado a fare le primarie perché sono contrario. Sì. Perché vuol dire che scelgono ancora, scelgo lì e poi decidono ancora loro cosa fare. Quindi sono contrario alle primarie. Sì. In questo senso, come lo facciamo noi. Però penso che Renzi finalmente potrà buttare per aria quel partito in cancrena, insomma. Dunque fai il tifo per Renzi, diciamo la verità. Sono sicuro. Però a te una volta... Guarda, io ero un fanatico di Bersani, sì. Quando era presidente di regione, fanatico. Finalmente arriva qualcuno che ha coraggio, che farà, che decide. Io non so cosa succede. Succede che quando uno mette piede nel partito, così fa il segretario, gli tolgono le palle. E forse succederà anche a Renzi, allora. Perché dici cioè, che... Bersani è diventato niente, è diventato innocuo, non fa, non decide, non conclude. Purtroppo sono tutti così. Beh, si vuole... adesso ha deciso di allearsi con Vendola e poi forse anche con l'UDC, cioè sembra... Sì, se alleano tutti con Vendola, sì, con fermi grandi discorsi. Dai ragazzi, smettiamola. Io voterò Grillo, non Renzi. No. Grillo. Vabbè, ma guarda che Renzi e Grillo hanno qualche tratto in comune. No. Assolutamente no. Scusa, ma una volta Renzi non ti ha tolto delle pubblicità da... Non a me. Renzi ha fatto il solito bacchettone, come mi piace ogni tanto a questo DNA proprio della Democrazia Cristiana. Ma come DNA? E non volle certe immagini, allora dice... no, basta pubblicità sui muri, allora si può togli tutto, perfetto, togliamo i manifesti dei muri. Ma non è che adesso tu decidi cosa va sui muri e cosa non va sui muri. È un po' bacchettone, insomma, un ma po' no, un retaggio. L'unica cosa che non ti piace è questo. Bacchettonissimo. Ambizionissimo, sì. E farà carriera, ce lo ritroveremo lì come tutti i nostri politici. Vabbè, ma non è male, però, dai, su, cioè, non è meglio di altri. È una novità, no? Molto meglio, ma finalmente, ma la volta, adesso vedremo cosa sanno fare questi qua che dicono di essere giovani. Comunque, Bersani, una delusione. Grandissima, mamma mia. Ma guarda, quando lo guardi, poverino, l'unica cosa da sapere è tirarsi sulle maniche, ma proprio fisicamente, poi basta. Vabbè, solo perché non ti è piaciuta, perché non l'hai fatta tu la campagna. La campagna. Ma non sei sicuro, come fai a fare la campagna con questi qui? Ma perché non ti hanno scelto te? Ma figura, me ne frega. Ma tu come l'avresti fatta? Come rilanceresti l'immagine di Bersani? È impossibile. Ma no, ma li affogherei tutti, ma figurati. Ma come li affogheresti? Senti, ma Grillo fa... Ma che ci penso a fare la campagna per quel PD? No, neanche nato, ma ha ragione persino Cacciari. L'ha detto qui da noi. Scusa un attimo, però io voglio dire una cosa. Questo Grillo che guida il movimento col pugno di ferro, diciamo, no? E Putin. Io ho detto che fa benissimo, ma come deve fare se no? Ma io me l'ho detto che sembra Goebbels, no? Non è sembra Goebbels. Ma comunque, sembra... la strada della democrazia non è democratica. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove... 800 24 00 24, con noi Oliviero Toscani. Ma insomma, è una sorta di despota Grillo o no? È un dittatore. dittatore totale. È meglio che sia così o no? Ma per un momento ci vuole, insomma, per questo qua è un momento di grande cambiamento. È chiaro che io sono per la democrazia, ma stiamo scherzando. Però deve guidare questo. Ma la democrazia dov'è? L'antipolitica la stanno facendo i nostri politici da tempo ormai. Sì, hai ragione. Proprio antipolitica. Che cazzo di. No, scusate, ma che politica fanno? Cosa fanno? Questi qui sono tutti lì, la Russia, gli altri. Cosa ha citato? Ma guardate che facce. Ma giovane. No, ma che c'entrano le facce? Ma non si può, via, basta, non ne posso più. Scusa, ma che c'entrano le facce? Non ne posso più, ma perché. Ma scusa, Oliviero, ma perché un politico. Che torna, ma non è possibile, basta. Toscani, ma scusi, perché il politico deve avere per forza una bella faccia. Se dovesse avere una bella faccia, allora no, benissimo la Minetti. Una faccia giusta, ma guardate Obama che faccia che ha, insomma. Ma lo stesso Orlando non ha una bella faccia, ma in 90 giorni ha fatto quello che molti non ha fatto in un anno. Scusa un attimo, Oliviero, quando tu dici che di Goebbels, perché dici Goebbels? E poi... No, Goebbels nel modo come parla, io dico sempre Grillo, ma di le stesse cose sottovoce. Anzi, così ti chiedono di ripeterle per capire meglio. Sì. Non sarebbe male, dicessi quelle robe lì sottovoce. Ah, ma tu stai già collaborando col movimento di Grillo? Cioè lo senti ogni tanto? No, ma io lo conosco tanto tempo, Grillo. Ma vi sentite? Sì, adesso non voglio fare una cosa personale, va bene? No, ma per capire, scusami, perché... conosco Grillo, conosco... Ma gli dai dei consigli? Ma io parlo come consiglio, anche tu, voi state dando i consigli a me, a tutti, no? Anche la Zanzara dà dei consigli. No, di la verità. E come no? Di la verità. Insomma, Grillo... Ti dico, non parlare come Goebbels. Infatti ha detto che adesso quando farà il campo di concentramento metterà dentro me e tutti i miei amici. Senti, ma la Bindi che... dunque, va no, bene? Sta la Bindi contro l'omosessualità. Ma è matta questa... Ma è matta? Ma si guarda allo specchio? Ma no, che, dai che anche tu. Cosa vedrebbe allo specchio? No, dovrebbe fare un esame di coscienza, non è una questione estetica, non è una questione... No, no, è scusate, che... no, non l'ho detto, no, scusate, non voglio essere frainteso, non è una questione estetica. Beh, no, quando hai detto si guarda lo specchio. No, ma lo specchio nel dire nel suo specchio sì. Quello che veramente sente umanamente delle cose, non fa dire quello che dice, ma... voglio discutere ancora il matrimonio gay, ma non rompano le palle. Ma la Bindi ha detto anche che ha rinunciato, è stata una pena rinunciare al sesso, insomma una... Ma anch'io ho fatto tante pene a rinunciare a tante cose, ma non in università. Ma cosa rappresenta la Bindi? Tu hai rinunciato a qualche cosa. Come, scusa? Non hai rinunciato sì, a molte purtroppo. No, la Bindi adesso la faccia santa, perché hai rinunciato al sesso. Ma cosa rappresenta la Bindi per te oggi? Cioè, che rappresenta? Rappresenta uno spettacolo comico. Uno spettacolo comico, no, proprio comico, addirittura comico. Comico, addirittura. Tragico e comico. Comunque, vabbè. Questo ma non se ne può più di questi qui che parlano così, ma non se ne può più. Ma le Paralimpiadi le stai vedendo? Sono curioso. Ma neanche mia zia parla più così. Come la Bindi? Parla meglio tua zia della Bindi, insomma. Sì. Scusa un attimo, Oliviero, ma le Paralimpiadi le stai vedendo? No. Sì, l'ho visto un po'. Ma è uno spettacolo che ti piace? Non sono d'accordo che debbano competere. Già non sono d'accordo con le Olimpiadi io. Perché sono la stessa cosa, la penso come Grillo. E perché le Paralimpiadi no? Anche Paolo Villaggio l'ha detto. No, perché non va bene. No, io trovo che sia fantastico che facciano quello che fanno. Mi dà fastidio la competizione. Perché alla fine... ci sarà lì, anche lì, qualcuno che non vince, qualcuno che, essendo così, alla fine sarà anche ultimo così. No, ma non è possibile. Vabbè, ho capito. Beh, però, questo è lo sport. Si divertono loro. Non è uno sport quello è una competizione. Le Olimpiadi non è più sport, Vabbè, è una competizione. Economia, ma cos'è che non ti piace? La vista, vedere magari il basket no, in carrozza? No, non mi piace la competizione, soprattutto in una condizione così. Cioè? Dunque non le faresti. No. Non le faresti, cioè no, è ingiusto. Farei, è giustissimo che uno faccia quello che vuole. Lo sport, cioè. Io vicino a Bolt. Sì. Sono anch'io handicappato o no? Beh, vicino anche tu, Crociano. Certo. Vicino a Bolt siamo handicappati noi. E allora? No? E allora ci mettiamo a fare le Olimpiadi noi handicappati vicino a Bolt. No, non ho capito, però scusa. Non è un fatto fisico, no, non è assolutamente un fatto fisico. E che cos'è? Allora, cioè, voglio dire, ti dispiace. Ti loro per fare le Paralimpiadi. Perché si chiamano Paralimpiadi, è la competizione tra persone che hanno disabilità. Abbiamo i giornalisti che sono sono molto più handicappati di loro. Ah, questo. Cioè, non ci dovrebbe essere, non ci dovrebbe essere una competizione tra persone. Basta competizioni, poi divisi per stati con le bandiere, poi volete le democrazie, ma non è possibile. Vabbè, adesso è impazzito, questo. Ma poi hai detto recentemente che tutti dobbiamo diventare più poveri, che gli italiani dovrebbero diventare più poveri. Chi l'ha detto? Tu l'hai detto da qualche parte. Hai detto l'Italia. Ma vero, eravamo posto più poveri 20 anni fa, non so perché ci lamentiamo. Perché si lamentano troppo, si lamentano troppo. Allora siamo dei frignoni, mamma mia. Ci lamentiamo dalla mattina alla sera, questa hai ragione. Siete tutti lì con la crisi, la roba. Beh, ti credo, no, tu stai benissimo. Coniani tristissimi. Beh, ma è normale essere per forza tristi. Che beh, è ovvio che Toscani è ottimista, è un professionista, guadagna un sacco di soldi, è ovvio che dici, devo vendere una casa per pagare le tasse, non dite cazzate. Come devi vendere una casa per pagare le tasse? Guarda, ecco che ti piangi addosso anche tu. No, ma per un paio, ma non figura, me ne frega niente, tanto ce n'ho un'altra. E cosa che ci faccia? No, ma per un paese che non mi ha dato niente. Niente, non mi ha dato comunque. Non aiuta chi ha buona volontà. Va bene, non aiuta chi ha iniziativa. Vabbè, non aiuta chi ha fantasia, non aiuta chi ha voglia. Dunque, le tasse, tu hai detto questo cazzo di tasse, perché. Sì, perché ti scoccia pagarle. Ti scoccia pagarle. Non mi scoccio, ma a chi piace pagare le tasse? Deve vendere la casa. Mia moglie norvegese paga tutte le tasse, ma neanche i norvegesi piace pagare le tasse. Ma perché dici? Hanno uno stato che funziona. Ma perché devi vendere sta casa? Non ho capito. Perché così sono carissime. Ah, perché. Senti, non abbiamo uno stato che funziona, quindi uno non paga le tasse volentieri per darle in mano ai ladri. Le conoscete gli scandali italiani o no? Ma certo. Beh, sì, però allora, questo qua è un paese mafioso, ragazzi. Comunque io ti voglio presente alle primarie del Partito Democratico, presente. Ma non vengo, non voto le primarie. No, non voti. Vota Grillo, no. Ha detto. Vota Grillo. Vota Grillo. Vabbè. No, scusa. Voti Grillo Goebbels. Voti Grillo Goebbels. Non ho mai votato nessuno che poi è andato al potere, mai, non ho mai avuto questa soddisfazione in sto paese qui. Eh beh, ma con Grillo guarda che insomma caschi male, non è che ma volto. No, appunto, anche lui non andrà a finire, è grande. Grazie, un abbraccio. Ciao. Beh, ti avverto, caro Parenzo, che siamo in onda, Ti avverto che siamo in onda. No, io te lo vorrei dire così, in maniera molto chiara, in maniera molto, molto sobria. La stessa sobrietà, identica, cari, la stessa. Cari Pussy Riot, siamo con voi. Continuate a difendere la libertà. Ma Pussy Riot si dice, no Riot. Ma Pussy Riotta pensavo, fosse Pussy Riotta, gli Mamma amici mia, di Riotta. Nemmeno tu, ma sei peggio Pussy di Riot. Sei peggio di Luigi Luigi la Polpetta là. Pussy Riot. Una cosa pazzesca. Vabbè, allora vi stavo dicendo prima dell'interruzione. Riot. Prima dell'interruzione di Parenzo, vi stavo dicendo la stessa sobrietà utilizzata da D'Agostino, quando l'ha salutato Formigli ieri sera. Grazie Roberto D'Agostino, no, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Un'altra strage di profughi nel canale di Sicilia, 56 tunisini tratti in salvo, recuperato un corpo, 79 i dispersi. Fiducia nei mercati, spread in calo, la decisione della BCE sull'acquisto di bond dei paesi in difficoltà promossa anche dalla Casa Bianca, uno sviluppo positivo. Monti, abbiamo evitato il tracollo del paese, capisco alcune critiche, ma la situazione era drammatica, avanti con le norme anticorruzione. Ma sull'anticorruzione il PDL frena, non accettiamo forzature, il PD così si schierano con i corrotti, l'UDC nel simbolo, via il nome di Casini, al suo posto Italia. Bufera nel movimento di Grillo sul fuori onda di Favia che attacca il guru Casaleggio, ora c'è chi chiede un congresso prima delle politiche, il dibattito sul web. Chiude i battenti la convention democratica, Obama accetta la nomination e cita Roosevelt, vi offre un percorso difficile ma conduce a un posto migliore. La strage di una famiglia irachiano-britannica nelle Alpi francesi diventa un giallo in azione killer professionisti, ma c'è l'ipotesi della faida familiare. Wake up, Polpetta, sun is shining, don't you see? Get up, Polpetta. Ma il numero uno resta sempre lui, il presidente della provincia di Napoli, nonché deputato, Luigi Cesaro, detto a Polpetta. Urban Forum. Beh, resta sempre il top del top. Chiamiamolo. Sentiamolo ancora qualche pezzo, ti prego, sì. Ti prego. Soprattutto dobbiamo recuperare il degrado delle scuole. il degrado delle strade, il degrado per tutta Bellinzona. Ci hanno ridotto proprio all'omicidio. Noi dobbiamo riconquistare soprattutto questo grande slancio, soprattutto perché il turismo è uno dei primi obiettivi, deve rilanciare l'occupazione, ma soprattutto deve rilanciare questa grande Napoli. Qualche volta bisognerebbe fare un'esegesi. Un'esegesi significa una traduzione, una spiegazione a modo nostro, naturalmente, dei discorsi di Luigi Cesaro a Purpetta. Però su Luigi Cesaro a Purpetta ha detto delle parole definitive il sindaco di Salerno De Luca del Partito Democratico. Sentitelo, perché è meglio di Sgarbi. Un uomo che, sì, lo so, io sono andato a Sant'Antimo, mi hanno raccontato parecchie cose, è stato eletto presidente della provincia, un essere che a definirlo umano si fa un oltraggio alla biologia. Beh, questo adesso francamente, signor De Luca, però l'avevo ascoltato anche male, addirittura un oltraggio alla biologia a definire il signor Cesaro umano, questo è francamente esagerato. Ancora. Un uomo che è in guerra da decenni con la grammatica e la sintassi, uno sterminatore di congiuntivi. Beh, questo è l'emblema del rinnovamento che ci propongono. Un individuo che è chiamato dai suoi concittadini con un'espressione mitico-allegorica, Gigino la Polpetta. Beh. Urban Forum. Eccoci qui, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, sentiamo. Rispondi, su. Dai, su, rispondi. Rispondi, amico mio. Dai, rispondi. Polpettina, su. Dai, su. Un altro squillino, rispondi. Mi hanno insegnato che se uno non risponde entro i tre squilli... Non risponde più. Vuol dire che... Ci ha accannato. Pure l'altro giorno aveva risposto, eh. Sì? Aveva risposto. Sor Cesaro? Sì. Vogliamo sentire il tic tac? Sta facendo un corso di grammatica. Il tic tac? Violentatore di congiuntivi, bellissimo. Il tic tac. Tic tac, tic tac. Il tic tac, tic tac. È da poche, qualche ora che Berlusconi ha dato il tic tac a noi, a tutta la regione Campania, ma non solo, ma a tutto a livello nazionale. Poi intanto Prodi ha detto che non è cosa, lui al Quirinale, non è cosa Prodi al Quirinale. Siamo qui, Monti è ritornato a dire che la ripresa è dentro di noi. Ancora, non gli è bastato. La ripresa è dentro di noi. La ripresa oggi non la si vede nei numeri ancora, salvo qualche barlume, ma io invito a constatare che la ripresa, se riflettiamo, è veramente dentro di noi ed è una cosa che adesso è alla portata del nostro paese. E siamo qui con Orazio, che ci chiama dalla provincia di Messina. Buonasera. Buonasera. Dica. Io constato con molto piacere che è partita la campagna d'autunno contro Grillo e contro il Movimento 5 Stelle. Io non voto dal 95, ovvero da quando a Fiuggi è morto il Movimento Sociale Italiano. Questa volta però andrò a votare, voterò Grillo naturalmente, e non mi limiterò a questo, perché farò campagna elettorale, non l'ho mai fatta nella mia vita. Bene, allora... continuate pure. Ma continuate chi? Contro Grillo. Ma chi? Noi contro Grillo? Sì, ma se l'ho difeso stasera? Ma come no? Fate tutte le mosche cocchiere. Le mosche cocchiere di chi, scusi? Amplificate di chi? Del potere costituito. Del potere costituito. Ma lei che fa? Il brigatista? I brigatisti chiamano il potere... Questo non glielo consento. Guardi, il brigadista sarà lei. Ma no, ma il brigatista nei modi brigadista di parlare, nei modi di parlare, nel linguaggio. No, ma lei lo guardi, lei deve saperlo che linguaggio parla. Ma a proposito, lei è iscritto all'ordine dei giornalisti? Ma si faccia gli affari suoi, certo che sono iscritto all'ordine. Me li faccio perché sono, siccome anch'io sono un iscritto, a questo auguri. Punto dovrei considerare tanti, forse... Tanti, tantissimi auguri. L'idea di strappare la destra, se lei è strappi la destra, che me ne frega a me? Cioè, faccia quello che me ne frega a me. A lei non gliene frega niente. Ma è lei che l'ha nemmeno detto. Degli operai, nemmeno dei minatori del sud. Ma è lei che ha detto che vuole strappare la destra, mica io. Sulle torri. Però sa cosa? Sa cosa mi sorprende? Continuate contro Grillo, grazie. No, ragazzotto, scusi, sa cosa mi sorprende? Ha abbassato. Norberto da Foggia, buonasera. Questo votava Miss, ora vota Grillo, c'è una continuità. Ah, non c'è dubbio. Norberto da Foggia. Italiani! Pronto? Norberto Italiani? Pronto, mi sentite? Dica. Salve, buonasera. Io volevo intervenire in merito al matrimonio degli omosessuali. Sì. Per dire semplicemente due considerazioni molto sciocche. La prima è due questa, considerazioni, cioè, quando, scusi? Molto sciocche. Quando, molto esempio, shock. Molto sciocche. Dato il mio livello sociale basso. Volevo vabbè dire, Norberto, non si preoccupi di questo, dica quello che deve dire. Quando invitate i politici, sì, potreste chiedergli che cosa gli interessa, cioè che cosa ne pensano delle unioni legali di coppie eterosessuali. Mamma mia, che noia, però Norberto, già mi sono annoiato. No, no, no, le no, unioni no, legali di coppie eterosessuali. Sì, guarda, Cruciani, semplicemente per dire... che matrimonio gay ha la stessa equivalenza di matrimonio di coppia eterosessuale. Ma questo è semplicemente una scelta convenzionale per un istituto contrattuale. Arrivederci, allora, Michele da Pistoia, buonasera. Ma mi ha rotto già le scatole, sono Norberto con le cose. Michele, dica. Pronto, buonasera. Io è da ieri sera che sono in linea perché volevo parlare. Mi piacque il turpiloquio che ho sentito di Sgarbi. O lei di Luca questo. Un attimo, Questo chi è? E non lo so, non dobbiamo dire chi è. Ah no, perché? Mai dire chi è. Rispondi. Uomo o donna? Uomo. Uomo. Secondo uomo. Me a quest'ora, quando qualcuno sente squillare il cellulare... Mi viene il dubbio sul numero di telefono, però. Mi sta venendo il dubbio sul numero di telefono. Però... Tu dici a quest'ora se uno sente squillare non risponde, privato, capito? Privato non risponde, capito? Ormai è possibile. No, su quelli c'è il trolley della zanzara, per carità, lascia stare. Allora, Michele, che stava dicendo? Pronto? Sì, che stava dicendo? Dicevo, sono rimasta ieri sera quando ho sentito quelle bravissime parole, bellissime parole dette, se non sbaglio, da Sgarbi. Questo è un uomo che rappresenta l'Italia, è stato ministro, deputato, senatore, sindaco, porca della miseria, sindaco di un paese e ministro della Repubblica Italiana. Ma ci se ne rende conto? Ministro, io non è stato. Sapere solamente che un centesimo delle tasse che pago, che sono alte per il mio reddito, va a quel rincoglionito, mi gira coglioni. Beh, adesso, insomma, paghiamo anche una lauta pensione, come dice sempre Parenzo. Allora, e mi girano ancora di più coglioni che io sto pagando un sacco di contributi e ho 54 anni, andò in pensione a 65 con 1.500, se ce la farò, euro di pensione, dopo che ho pagato contributi per 35 anni alla mia cassa di previdenza, e questo rincoglionito con tutte le sue parolacce, perché offende me, offende voi, offende tutta l'Italia, tutti gli italiani, si permette di essere, di riscuotere una parte delle mie tasse. Questa è roba da matti. Viva Grillo! Glielo dica! Glielo dica in faccia a Sgarbi. Parenzo? Sì, ciao. Mi piacerebbe, salve, ciao, mi piacerebbe una sera che c'è Sgarbi in linea, poterci parlare. Allora, si annoti il numero 335... Ah, da scrivere? No, ma che dai, il numero di Sgarbi in diretta. Ah no, scusa, siamo impazzito. In diretta. Ci sarà la rivoluzione, nemmeno un cannone però tuonerà. Ci sarà la rivoluzione, l'amore alla fine vedrai vincerà. E basteranno pochi anni, soltanto poche ore per fare un mondo. D'Agostino, Grillo prende più di Casini. Sentite, sentite, straordinario. Saranno perdonati chi ha vinto e chi ha perduto. Si abbraccerà, è finita la rivoluzione. Qui stiamo a parlare di uno scazzetto tra all'interno di una corrente di un movimento che ha raggiunto nelle amministrative l'8%, più della Lega, più di quel cazzo di Cassini che sembra che ogni volta viene intervistato come un dio. D'Agostino e Formiglio, top del top. Chi ha vinto, chi ha perduto, vedrai se abbraccerà. D'Agostino ha fatto l'intervento, ha detto voglio andare via. Grazie a Roberto D'Agostino. No, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Che c'è? La Billy? No, basta la Billy. 800 24 00 24, la Zanzara, Vittorio da Bergamo, buonasera. Vittorio. Buonasera. Dica. Mi scuso perché non riesco a togliere il viva voce, non so se mi sente. No, ma deve togliere il viva voce però, se no la sentiamo poco. Non ce la faccio perché non vabbè, leggo. Allora vada, vada. Si fermi. Ascolta, con la macchina. No, dicevo, mi sono un po' arrabbiato a ascoltare Oliviero Toscani. Perché è di un qualunquismo incredibile, spara l'estate, dice di tutto e di più, il tutto è il contrario di tutto, è volcare. Ma io non lo so, io l'anno scorso abito a Monza, sono di Bergamo, abito a Monza, sono andato ad ascoltarlo che aveva un progetto lì per allora? Le brutture dell'Italia, è stata una platea di gente moderata, di gente che lo stava ascoltare, io lo ammiravo da fuori, poi lì ha sparato una serie di volgarità davanti a delle signore che veramente lo considero finito, scoppiato, ecco, per me quello lì è un uomo finito, e forse il fatto che si arrabbia contro il PD perché è qui, secondo me perché non gli fanno fare la pubblicità a lui, ma non credo, quello no. Beh, non è, credo che abbia quello bisogno, non credo, perché è fatto così. Senti chi parla al congresso dell'UDC. No, diventati una costola della sinistra. Ma quale costola della sinistra? Ma di che parlate? Ma che c'entra noi? Vendola con noi? Ma che c'entra Vendola con noi? Ma chi ci vuole avere a che fare con Vendola? Bersani e Vendola formeranno la loro coalizione. Per il bene del Paese mi auguro davvero che sia una coalizione con un programma all'insegna della continuità con il lavoro di Monti e non della discontinuità con quanto di buono fatto fino a oggi. Lo sai chi è? Lorenzo Cesa. Nuova grande iniziativa della Zanzara. Prossimamente tutti i discorsi di Cesa verranno mandati in versione integrale, la nuova grande iniziativa della Zanzara. Beh, certo, per aumentare gli ascolti, i discorsi del segretario dell'UDC Lorenzo Cesa. Perché è vero, lui è il segretario, mentre il presidente è Casini. Felix da Roma, buonasera. Pronto, sì, sì. Buonasera, salve. Io volevo spendere due parole su Renzi, fondamentalmente. Vada, vada. Mi sembrate un po' morbidi con Renzi, perché... Beh, non siamo morbidi, io faccio il tifo, per esempio, non sono morbido, sì, per niente, anzi, il contrario. Poi, dopodiché, per esempio, ho letto stamattina un articolo su Repubblica, con un'indiscrezione, che viene dai collaboratori di Renzi, insomma, che mi ha lasciato un po' di stucco, dunque, io sono sicuramente un tifoso di Renzi, però non è che ho il prosciutto davanti agli occhi. E allora, Renzi avrebbe detto, secondo questo articolo di Repubblica, cui bisogna sempre vedere, se vinco posso offrire il bis a Monti. E beh, no, mi sembrerebbe totalmente in contraddizione con quello che è Renzi. Cioè vince le primarie, poi magari vince le elezioni, che fa? Offre a Monti il bis, ma di che stiamo parlando? Poi deve governare il paese, non offrire a Monti il bis. Ma di che? Si deve candidare a governare il paese, sì, certo, se si candida alla vita. E quindi? Ho capito, appunto, se avesse detto questa frase, se vinco posso offrirgli il bis a Monti, se l'ha detta, e mi sembra difficile che l'abbia detta, sarebbe una come dire, un errore clamoroso. Cioè, se uno vince, poi governa, non è che offre a Monti il bis, ma che è? Cioè... Però non ha smentito ed è un virgolettato. Vabbè, quindi... non ha smentito, che bisogna smentire tutto. Beh, è una cosa così, ma sì. Ma no. Lorenzo da Milano, buonasera. Dunque, pronto, no, buonasera. Però Felix voleva parlare di Renzi. Voleva dire ancora qualcosa su Renzi, no, non c'è più. Lorenzo da Milano. No, ci sono. Allora? No, è solo Lorenzo, è entrato. Buonasera, sì, a tutti. Sì, buonasera. Volevo fare un intervento su Grillo. Finalmente è venuto fuori ieri sera da un esponente autorevole del Movimento 5 Stelle cos'è veramente questo movimento. Un movimento di burattini manovrati da delle grandi menti che sanno usare benissimo il marketing. E questa è una cosa che dovrebbe far riflettere un po' tutti, secondo me. Allora? L'altro punto, l'altra cosa che volevo dire sempre relativamente a Grillo, che anche a parte i toni che usa, ma anche di fatti dice le cose che non stanno nel cielo in terra. Cioè uno che sostiene che sì, lo Stato è peggio la mafia, che è, scusate, sono in ma chiami. Beh, Lorenzo, però non è che abbiamo qui tutto il prego, tempo. Faccia con comodo, prenda un caffè, non lo so. Sono, ho finito di lavorare ora. Ho capito, però. Siete il mio momento di relax serale. E allora? E allora? No, vabbè, beh, infatti, prenda faccia un caffè, con comodo, faccia con comodo. Quel che vuole. Dunque? L'altra cosa, cioè l'intervento del signor, quando dice un po' di rispetto per il lettore di Grillo, abbiamo ottenuto l'8%. Onestamente io rispetto chi voglio rispettare, anche Berlusconi ha avuto il 35% dei voti in passato, abbiamo avuto Mussolini e non mi sembra che siano state grandi esperienze. No, ma ho capito, ma D'Agostino voleva dire, cioè mi sembra che stiamo guardando una piccola bega all'interno di un partito anche importante piuttosto che la trave che hanno tutti i partiti, non mi sembra un ragionamento sbagliato, in questo caso difendo pure Grillo, cioè, i partiti hanno molti più problemi di quelli che si presentano nel movimento di Grillo, sì. Che è scontato che sia un movimento carismatico, questo in cui... che è sbagliato. Ma no, è un movimento guidato da due persone, di che stiamo parlando? Ha ma ragione è così. L'ascoltatore, cioè... no, ma le persone non se rendono conto questa cosa qui. Il problema è che non se ne rendono conto. I militanti e i dirigenti, questi Favia e questo Pizzarotti e tutti questi qui devono ribellarsi. Ma che cosa? Ma non esisterebbero e devono senza riprendersi Grillo. Il senza movimento. Ma senza quella roba bene, lì non esisterebbero. Devono sfruttarlo. Lo hanno usato come marchio. Ora dimostrano che possono camminare da soli senza quel Putin e senza Medvedev, senza questi due qui. Che voglio stanno... sentire di nuovo la Polpetta. La Polpetta, se non sento la Polpetta ogni tanto mi sento male. Urban Forum. Francesco da Firenze, buonasera. Francesco, mi sente? Sì, pronto. Vada. Sì, le volevo contestare la apertura della trasmissione quando, non mi ricordo, sulle dichiarazioni di chi che diceva che siamo in una pseudo democrazia, lei ha contestato che siamo in una piena democrazia. Sì, Favia, quello che ha fatto il fuori onda, eccetera. Certo che siamo in una democrazia, ma di che parliamo, Francesco? No, semplicemente abbraccio. E in un paese dove i processi civili durano 20 anni... Ma quello che c'entra? Quello sono i difetti di una democrazia. In quelle elezioni politiche non possiamo dire chi vogliamo votare. Ma non è vero, lei può in votare per i partiti. Ricerca della ricerca scientifica è decisa dal Vaticano. In cui se la finanza ti dice che sei colpevole, prima paghi, poi a te sta l'onere di dimostrare che sei innocente. Sì, ma non è pseudodemocrazia questa. Ma come non è? Cioè, ma questi sono i problemi di una democrazia. Sono, in cui facciamo il referendum sul finanziamento pubblico e viene disatteso. Il referendum sull'atomico. Sì, ma non c'è un sistema. Ho capito. Riavevamo l'atomico. E poi la più grossa, per dirla, ritorna a bomba. Siete voi giornalisti, perché noi che abbiamo fatto siete al libro paga della politica e dite ma al libro paga della politica ci sarà lei innanzitutto. Ma ascolta la trasmissione. Ma non mi interessa la trasmissione, ma al libro paga della politica ci sarà lei al libro paga della politica. Ma magari. Ecco appunto, magari. Gli piacerebbe? Gli piacerebbe. Paparetto che difende sempre e solamente il PD. Ma non è vero. Perché oggi Toscani ha attaccato la Russia e quell'altra, ha avuto il coraggio di difendere anche loro. Perché quando si tocca lo status quo della politica, inalberate. Ma che mi frega come a me del PD? Ma lei non ascolta le cose? Abbiamo criticato no, la Bindi, abbiamo criticato Bersani, abbiamo detto che devono fare delle campagne. Ma insomma, ma perché devo giustificarmi con lei? Perché lei fa un lavoro che dovrebbe essere super parte quando super parte non è super partes, ma quello che c'è, conto sono le notizie o conto il commento che possiamo dare alle notizie? Ma dov'è il problema? Ma di che dobbiamo parlare? Ma che dice? No, dovete parlare con obiettività. Cosa sì, è quella, no, Francesco, non esiste l'obiettività, esistono i pareri delle persone. L'obiettività non sussiste. Grazie. Wake up, Polpetta. The sun is shining, don't you see? Nessuno ha dato il tic-tac a noi. There are so many friends to me. Urban Forum. Don't you see? Gigino la Polpetta. Nuova sigla della Zanzara, ormai dedicata a Gigino la Polpetta, presidente della provincia di Napoli, tocca. Nonché deputato del PDL, collega di Guido Crosetto. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, voi? Bene, insomma, siamo tornati carichi dalle vacanze. Beh, insomma. È un dramma per tutti quelli che chiamate. Ma lei si sente collega del signor Polpetta, caro Crosetto, del signor Cesaro? No, chiedo, senza snobberia alcuna. Dica, Cesaro è un mio autorevole collega, dica così, la prego. siamo tutti e due eletti al Parlamento della Repubblica Italiana, insieme alle altre 628 persone. No. Lei deve dire... Ma perché fa ancora il presidente della provincia di Napoli il deputato? Però lei è dello stesso partito di Cesaro. Non mi vergogno, anzi. Pronto? Sì, vi sto ascoltando. No, ma dica, si vergogna o no di Cesaro? Mi vergogno delle cose che faccio o non faccio io e gli altri, guardi. Mi auguro che sia un sistema in cui sia la gente che manda le persone, non i partiti, così almeno quelli che ci sono stati votati da qualcuno e non scelti da un partito e quindi hanno la fiducia delle persone le che preferenze. Hanno mandati e rispondono loro, no? Le preferenze, le famose preferenze. Ma no, le preferenze, collegi adesso, sì. Scelgano il sistema, non mi occupo di queste cose, ma scelgano un sistema soltanto che consenta di dire se un deputato non va bene, vabbè, questo non va bene, non lo ricandidiamo più, ma chi l'ha eletto almeno condivide la responsabilità e non ce l'ha solo un partito. Da questo punto di vista comunque Cesaro i voti ce l'ha, voglia voti che c'ha, ce n'ha tantissimi. Ne ha probabilmente più di me, di voi due, di tante altre persone, questo è sicuro, la provincia anche. Ha voglia, voglia. Allora siamo qui. Quindi 80... viva Cesaro. Vabbè, non ha detto viva Cesaro, su che c'entra adesso? 800 24 00 24. Allora... sa che se devo dire viva a qualcuno lo dico, quindi. In questo caso non lo dice, questo silenzio. Ma no, lo dico, perché guardi, ma presumo ci siano anche due modi diversi di fare politica e due richieste diverse alla politica secondo i territori, quindi. Senta, Grosetto, sono fortunato che sono nato in un territorio, non è un mio merito, un territorio più ricco dove la politica conta molto di meno, perché per fortuna il lavoro, le possibilità di investimento derivano dai privati, non dalla politica, quindi cioè meno male che non sono nato in campagna, una che ha meno bisogno di scendere a compromessi o di pensare che il sistema del voto in cambio dell'aiuto sia una cosa normale. Meno male non è che io sia più bravo degli altri, no, però meno male che non sono nato in campagna, dice lei. Cosa? Meno male che non sono nato in campagna, dice lei, no? Vivo una realtà che, con tutte le difficoltà che tutta l'Italia in questo periodo, è più facile da questo punto di vista. Poi per qualcuno magari non va bene, qua la politica giustamente conta molto di meno, conta molto di più l'imprenditoria. Senta, dica lei in inglese, lei pronuncia un buon inglese, Urban Forum. World Urban Forum. Beh, l'errore. Vuole sentire il suo collega di partito, il signor Cesaro? Oppure ha già cliccato su internet? Senta la pronuncia del suo collega del PDL. Senta qui. Comunque, lei l'ha votata la legge sulle preferenze del 2006, quella legge, la famosa legge porcata di Calderoli. L'ha votata pure lei, O sbaglio? L'ha votata tutto il Parlamento. Beh, l'ha votata pure lei. Non tutto il Parlamento. Tutto, lei pure l'ha votata, perché adesso si ricorda? No, beh, si ricorda. Adesso tutti si ribellano. La informo che quella legge è quella con cui si legge il 50% dei parlamentari tedeschi. Sì, lo so, ma ho capito, io non sto dicendo. Il problema non è solo mai le leggi, sono come i partiti le declinano. Perché se l'ordine all'interno di quella lista bloccata fosse fatto con le primarie o fosse fatto mettendo le persone migliori in assoluto, ma le persone migliori chi le decide? Di un partito sarebbe una legge che nessuno criticherebbe. Ma sì, ho capito, a parte che le persone migliori bisogna sceglie sempre qualcuno. E poi le primarie, Grosetto, lei la votò quella legge lì, ma va benissimo aver cambiato idea, non è un problema. Io mi sento no, perché c'è sempre la cosa di un sistema elettorale. Declinano poi nell'attività. Lei si ricorda anche della formazione delle liste, i miei problemi all'interno. Sì, come no? Sì, ma per carità. Però adesso non è che si può dire. Si ricorda come mi opposi all'introduzione di alcune persone nelle liste che dipendevano da me, cioè quelle. Sì, per carità. Ognuno, quindi si arrivò a uno scontro violentissimo allora al PDL, per cui ognuno si porta le sue responsabilità. Io quello che devo dire. Lo dissi allora quando si formarono le liste. Adesso sono tutti contro questa legge elettorale a parole, tutti rivolgono le preferenze nel 2006. È il modo con cui si eleggono il 50% dei parlamentari in Germania. Quindi, dunque, non è uno scandalo questa legge. Dica esplicitamente: questa legge non è uno scandalo. No, io dico questa legge, no, di per sé nessuna legge è uno scandalo, è la definizione che ne viene fatta. Se io faccio una legge, se in questa legge metto al primo, mi passi la battuta, al primo posto Maria Goretti, al secondo Gandhi, al terzo San Francesco, questa è un'ottima legge. Se invece io in questa legge metto al primo posto Totorina, al secondo Picca, allungate voi, è una pessima legge. Dunque potrebbe rimanere se i partiti candidano Il problema è quando i partiti non assolvono il loro compito, che è quello di selezionare la classe dirigente in base al valore, in base alla competenza, in base alla possibilità di servire un territorio o uno Stato e magari di selezionare in altri modi. 800 24 00 24. E non diciamo quali. Ma sai che è a casa della mamma, signor Crosetto? Sì? Sì, sì, sì. Ci passi la mamma? Quanti anni ha la mamma? No, per carità, vi lascio, secondo lei, io vi lascio massacrare mia madre. No, ma che massacrare? No, ma è perché... Vogliamo perché... avere... Conoscendo voi due, no, perché scusi, è una gentile signora piemontese no, che ma... ha superato i 70 no, anni. Ma noi no, siamo... ma noi siamo, noi con le mamme... personaggi come voi. No, ma noi abbiamo un rispetto per le mamme, davvero. Assoluto. No, assoluto. No, la... perché... no, io però, come voi, mia mamma si lascia prendere, lei parla. La metta in viva voce un attimo. Molto più di me. La metta in viva voce. Di me, quindi... La mamma di Crosetto la di Tremonti in esclusiva alla Zaza. Ce la passi solo una, solo metta in viva voce, solo per sentire la voce. No, voce. Non c'è, no, sta cucinando. Beh, che sta cucinando? E siccome sono goloso, le ho chiesto se mi faceva un dolce, mi sta facendo un dolce. Ma che solo che dolce mangio? Che mangio? Un brasato, che mangio stasera? Una bagna un dolce, cauda. Sono goloso di dolci. Sì. Ma lei dovrebbe dimagrire come sta facendo Berlusconi. Grazie. Ma come sta facendo grazie, Berlusconi? Ancora voi. Ma Berlusconi ha perso 8 kg negli ultimi mesi, sta facendo una cosa pazzesca, corre, ma io diete. Io non sono un potenziale candidato alla presidenza del Consiglio per ora. Poi ma scusi, allora, studo... ma serve davvero a Berlusconi fare questa dieta, secondo lei? Cioè, dimagrire per candidarsi alla presidenza del Consiglio? Ma mi dica la verità, Crosetto. Serve a tutti quelli che sono sovrappeso in Italia, a me per primo. Ho capito, però... Ho visto che superato una certa età il cuore crea dei problemi. Ma Berlusconi alla fine che la farà sta scelta? Mi dicono di no, eh? Alla fine declinerà. Alla fine non declinerà. Lo so, secondo me tutte le possibilità... Tutto è aperto. Tutto è aperto, sì. Senta, Crosetto, se lei riflette, la ripresa è dentro di lei? Se lei riflette, la ripresa è dentro di lei? Mi fate parafrasare Monti. Ha detto una puttanata. Io non avrei mai usato una frase così, perché dire la ripresa dentro di lei evoca delle supposte, ma per dirla in termini farmaceutici, sì. Io penso che questo paese abbia al suo interno anche le capacità di ripresa, ma in qualche modo la cosa che ha fatto Draghi può darci l'ossigeno. Vabbè, ma è una frase di che tipo? Una frase ridicola, diciamo la verità. Cioè, la ripresa è dentro di noi, ma che vuol dire? Non sai, significa come niente. Dire la forza per risolvere qualunque problema, parlo di problemi singoli dentro di noi, ma non è una frase di Monti. Senta, ma ha sentito che Tremonti vuole fare una sua lista? Sì, ho sentito. Ha sentito, appena ha letto che ha pensato. E non ci pensi troppo, no, se ci pensa troppo... Ho pensato a chi pagava la sede. Cioè? Chi pagava la sede? Chi avrebbe pagato l'affitto della sede? E chi risposta si è dato? È una battutaccia. Lo so che è una battutaccia. Certo. Lo so, cioè... E quindi non va commentata una battuta, altrimenti si perde il significato. Ma chi glieli dà i soldi a Tremonti? Voti, siamo in democrazia, se prendi i voti, per carità. Ma li prende? Ma li prende, secondo lei? Non lo so. Cioè, ce l'ha un suo elettorato Tremonti oppure c'ha quattro gatti? Non lo so. Cioè, Equitalia? Io non lo voterei mai, ma... Questo è chiaro. Mai. Se si dovesse alleare col PDL o con quello che si chiama, come si chiamerà il PDL? Come voi sapete, è tutto aperto. Io sono libero, così libero. C'è un limite per tutto. Io già l'ho quasi raggiunto col PDL senza l'alleanza con Tremonti, quindi figuriamo. Perché lei si è stancato anche del PDL? Ma mi sono stancato di alcune prassi, di alcune cose, di alcune mancanza di innovazione, di parlare sempre di simboli, di leggi. Ma perché non esce? Perché non esce? Fare una proposta seria per uscire dalla crisi e per dare un minimo di speranza alle persone che non si... Perché non esce, Crosetto? Ci sta pensando, forse. Perché non esce definitivamente? Esce definitivamente? Basta col PDL. Ma se esco, me ne torno a casa. Io un lavoro ce l'ho, vivo tranquillamente. Quindi ma è possibile? È possibile. Perderò la possibilità di parlare con voi ogni tanto. Io però personalmente ci posso parlare, quindi va bene. Ma non è detto, non ma è perché? Detto. Anzi, anche possiamo... lei rimane un uomo d'impresa, anzi, un imprenditore. Più libero di parlare, bacchettate a tutti, è un linguaggio più libero di quanto già lei non faccia. Perché più di così, guardi, perché il linguaggio lo devo moderare con l'educazione che ho ricevuto, perché poi mia madre, che vi ascolta pure, mi dice no, però... Vabbè, ci faccia dare almeno la ricetta da sua mamma di questa fantomatica torta. Io che voglio sta capire però se la cosa di Tremonti è una sciagura, sì o no. La lista Tremonti, che cos'è? Una roba. Ma guardi, qualunque persona che voglia candidarsi e va bene, quello dei voti non è mai una sciagura. Cioè... Non è una sciagura, però è una roba fuori tempo. Che me la definisca in qualche modo. La prima cosa come che ha pensato, non ci rifletta troppo. Non è una cosa fuori tempo. Io ritengo che lui abbia sbagliato l'impostazione della politica e questo economica lo sappiamo. Ha gestito negli ultimi 9 anni sostanzialmente come un re assoluto, un monarca assoluto. Ma Bossi andrà con lui? Avendo il più grande potere dopo Monti, che sì, nessun altro abbia mai avuto in Italia, non ha saputo fare le cose, non capisco cosa si presenti a fare. Vale per lui e vale per molti altri. Continuo a dire che non abbiamo bisogno di persone come Tremonti che si ricandidano, abbiamo bisogno di una generazione, la mia e quella più giovane della mia almeno, che entrino in campo e dicano: signori, il debito pubblico noi l'abbiamo ereditato e ci ha lasciato generazioni più vecchie, lasciateci, date a noi la possibilità di provare a uscire da questa crisi. Ma lei si ricandida? In sintesi, come c'è un Renzi nel PD, io penso che ci siano uno più Renzi anche nel centro-destra. E chi potrebbe essere il Renzi del centro-destra? Per fare una battaglia di rinnovamento. Ma il Renzi del centro-destra chi c'è? Per adesso non si vede. Non lo so. Non si vede però, non si vede. Cioè, no, lei... avessi l'accento toscano lo farei io, ma non ce l'ho. Cioè lei potrebbe, si sentirebbe di fare il leader del centrodestra? Non ho la simpatia di Renzi, Renzi è più simpatico perché il toscano aiuta. Però ha le idee per farlo. Piace diciamo a molti, piace a molti Renzi del PDL, moltissimi. Dicono sono innamorati di Renzi, le donne, dice addirittura la Zanicchi. No, beh, adesso non esageriamo. Beh, la Zanicchi dice tutte le donne del PDL sono... È pure simpatico, io l'ho conosciuto da sindaco quando ero alla difesa. Molti lo voterebbero, guardi, molti anche, forse anche, voterebbero. Anche Crosetto lo voterebbe, forse, se non fosse dentro il PDL. Anche Crosetto, forse, no? No, no, no, nel senso io penso che ci siano ricette diverse al centro-destra e centro-sinistra. Però Renzi si avvicina molto. Uno solo per simpatia. Votassi per simpatia, cioè, voterei voi due. Sua madre lo voterebbe? Renzi, gli piace Renzi a sua madre? Sì, le piace moltissimo. Ma veramente? No, davvero? Sì, sì. Ma lo vede qui, ma sua madre che ha votato sempre Berlusconi, centrodestra più o meno? Mia madre nasce con un padre che era mio nonno era democristiano, aveva sempre votato VC finché esisteva e poi ha sempre votato un partito centrodestra, poi avendo il figlio candidato nel... Beh, appunto, però ma lo vede che tanta gente del centrodestra voterebbe Renzi? Anche la sua mamma, cioè, questa è la sua forza, lo dica chiaramente. Renzi, vieni con noi. Va bene, non è una questione di PDL, è questione di vedere una persona che parla in modo semplice, non ha pregiudizi sull'avversario e non lo demonizza, non parla dell'avversario ma cerca di parlare di problemi e in qualche modo parla di cambiamento e rappresenta fisicamente il cambiamento. Cioè la somma della simpatia di Renzi rispetto a altri politici è questa, cioè, che non è sostanza solo, è anche forma. È uno dei nostri, lo dica, è uno dei nostri. Ma no, è una persona normale. Vede, io ho moltissimi miei colleghi, posso fare nomi che lei neanche conosce, i miei colleghi del centro-sinistra, di cui ho una stima enorme come persone e per il lavoro. Però ricorda un po' Berlusconi del 94. Non ho barriere. No, ricorda un po' Berlusconi del 94, Renzi? No. Questa freschezza dirompente in una palude stigia della politica, un po' forse, dai, no? Ma no, sono due persone totalmente diverse. Renzi è un politico puro, nasce nella politica, non ha un'altra strada che non quella politica, ha mangiato pane politica fin da piccolo. Berlusconi arrivava da un'avventura straordinaria e imprenditoriale. Sono due cose diverse. Renzi, molte persone provano fiducia in Renzi perché rappresenta un modo diverso di fare politica di una persona che ha sempre solo fatto politica. Berlusconi rappresentava l'idea che negava la politica, cioè di un imprenditore, una persona che non l'aveva mai fatta, che prendeva in mano il paese. Le storie e le sensazioni che davano all'elettorato sono diverse. Ma allora, in qualche parte erano rinnovatori. Comunque ci vorrebbe un Renzi del PDL, che non c'è in questo momento, lei dice. Comunque dico una cosa, mi ha scritto Laura Ravetto un tweet, che questa cosa di Italia nel simbolo di Casini, effettivamente l'aveva detta lei qui alla Zanzara, a Vedrò. Ha detto: io altro che Grande Italia, solo Italia. Bisogna dare atto all'onorevole Ravetto che il copyright è suo. Invece c'è UDC, ha sfilato il nome. Senta, Crosetto, siamo in collegamento con Guido Crosetto del PDL. Sua madre sta sempre cucinando? No, finito adesso, ho finito di prepararci. Ma che torta è? Alcune si mangia presto. Ma cos'è? Allora ce la passi, ce la passi subito un attimo. Ce la passi subito. Ce la passi subito se ha finito di cucinare. Ce la passi. Vogliamo la ricetta. Cioè, ma cosa volete? La mia ma è grande ascoltatrice della Zanzara, dunque dobbiamo farle un saluto. La madre di Guido Crosetto. È interessante la madre di Innanzitutto la madre di Guido Crosetto. No, voi non è abituata a avere a che fare. Ma noi siamo brave persone con le mamme. Siete brave persone. Con le mamme. Siamo bravissime persone. Con i figli, no. Con le mamme, si figuri se facciamo qualcosa di male a sua madre o se le facciamo dichiarare qualcosa di sconveniente. Parola di Lupetto. Vabbè, le faccio salutare. Salutati due pazzi. Finalmente. Signora? Come si chiama sua madre? Signora Crosetto? Sì, aspetta che come si chiama? No. Come si chiama? Buonasera. Signora, buonasera. Signora, buonasera. Come si chiama, signora Crosetto? Mi chiamo Nica. Nica, che bello. Nica, sì. Che bel nome. Come bello, vero? È un diminutivo, ma comunque mi sono abituata a questo. Scusi, lei è magra al contrario di suo figlio? Beh, che è un po' grasso? No, mio figlio è magro rispetto a me, vabbè. No, comunque. Signora. No, ma, sto scherzando. No, scusi. non ci credo. Nica perché è diminutivo di cosa? Scusi, io non ho mica di capito. Domenica. Domenica detta Nica. Beh, è una cosa straordinaria. Allora, siete simpaticissimi. Sì. Grazie, signora Crosetto. Scusi, signora Crosetto, io ma lei veramente le piace Renzi? Sì. Sì, mi piace. Molto, E non le dico che non mi piace perché poi mio figlio mi scrive, magari. Dunque, molto, lei ha votato sempre PDL, ma è grande tifosa di Renzi. Magari fosse un nuovo Berlusconi, no? Ma sì, tutto sommato è simpatico. No? Sì, nuovo è meglio, Berlusconi. È meglio. Berlusconi ha stufato. Allora, io, dato che provengo dalla DC di una volta, certo. Mio papà, vabbè, logicamente essendo nel Novecento, per cui, insomma, ho sempre avuto le mie idee, ho sempre votato il DC e poi ho cambiato. Certo. Ma anche lei come suo figlio non sopporta Tremonti? Anche lei come suo figlio? Io Tremonti l'ho visto una volta e non mi è stato antipatico. Ce ne sono molti di più antipatici di Tremonti. Tremonti almeno anche spiritoso. Grazie signora, grazie. Signora, buona serata, grazie a voi. Buonasera. Ma che carina che è. Signora Nica. Siete riusciti a far dire a mia mamma che Tremonti non le è antipatico. Capito? No, sì. Che soprattutto Renzi è nuovo Berlusconi. Questo non l'ho sentito perché sentivo ciò che non penso. Vabbè, ma una comunque, persona così gradevole, ma non strano che voti PDL, una persona così gradevole. Perché? Ma tu sei pazzo, sto scherzando. No, è simpaticissimo. No, io il figlio, no, figlio simpaticissimo. Tutti molto simpatici. Ma scusi Crosetto, ma voglio dire una cosa, ma dov'è essere Alfano il vostro Renzi? Poi è finita malissimo, è finita a bordello, schifio come si dice in Sicilia. Cioè. Non lo so, vedremo. Io penso che nelle prossime settimane possa succedere anche qualcosa di interessante. Cioè? PDL. Che succede? Lasciatemi lavorare. Come no, un momento. Non è che ci può lasciare così con l'acqualina in bocca. Possono esserci sorprese di che tipo almeno? Ma nel senso che sono convinto che ci siano persone che nel centrodestra possano sollevare anche il problema di Berlusconi. In modo un po' meno soft di quello che è stato sollevato nell'ultimo periodo. Cioè basta con questa... Che non siano disposti a dire il centrodestra in qualche modo si arrende ad una lenta deriva, ma può in qualche modo tirarsi su e ha la necessità di un ricambio generazionale anche della classe dirigente. Ho capito, ma chi deve essere a capo di questa, cioè ci vuole un volto, no? Fateci lavorare. Va bene, questo d'accordo, però mi dico una verità. Questa storia della ricandidatura di Berlusconi si deve chiudere, perché prima si è ricandidato, poi ha fatto un mezzo passo indietro, adesso non si capisce cosa vuole fare, ha detto pure Cicchitto, si decide una volta per tutti. Prima sono convinto che fin quando non ci sarà una legge elettorale nessuno scioglierà in modo serio le riserve. Ma secondo lei, mi dica, è un po' una buffonata questa storia della ricandidatura di Berlusconi? Lo dica chiaramente, Crosetto, è una buffonata. Ma voi lo conoscete meglio di me, quando lui decide definitivamente una cosa non lo dice e lo fa. Però il fatto che questa cosa sia ancora in dubbio significa che non è ancora deciso di farlo. Quindi state preparando un'alternativa alla candidatura di Berlusconi, questo mi pare evidente. Questa è la novità. Qualunque alternativa venga fatta dal centrodestra ha necessariamente bisogno dell'appoggio di Berlusconi, perché come voi sapete alla fine Berlusconi è una delle persone che porta più voti al centrodestra, quindi necessariamente il salto generazionale ha bisogno di un aiuto da parte di Berlusconi. Questo è onesto dirlo, non tutti lo dicono apertamente, invece è onesto dire che senza l'aiuto di Berlusconi non si può cambiare. Non lo dico io, lo dicono gli elettori, cioè è la realtà. Poi. Ma lei piace Granditalia, lo chiamerebbe il nome, non gliene frega niente del nome. Come lei sa, mi interessano molto di più. Però è importante, anche queste cose... Cosa pensiamo delle aziende, cosa pensiamo degli artigiani... Ma questo d'accordo, però anche queste cose... Il lavoro, queste cose qua mi interessano di più. Il nome lo sceglie qualcuno che è più bravo di me a fare marketing, io non sono capace. Ma ci sarà uno che le piace a lei di più degli altri, no? Ma guarda, io non cambierei, io sarei anche questo, cioè, ripeto, il nome non è importante, il contenuto è importante. Il problema è il contenuto e anche le persone, cioè qualcuno dovrà stare a casa. Questo fa parte dei contenuti, le idee camminano sempre su gambe di uomo. Cioè anche lì bisogna svecchiare la questione dei mandati va posta in maniera seria oppure no? Ma vedi, io su questo, io penso che in politica sia come valga la stessa regola che vale per fare l'idraulico, il medico o... l'infermiera, cioè non è che l'esperienza sulle persone in gamba sia negativa, cioè se domani mandassimo 630 persone al Parlamento ci metterebbero 3 anni per capire come funziona il Parlamento e altri 2 per capire come funziona lo Stato, per cui serve una professionalità in tutto, cioè il problema non è quanto quanti anni sono stato, poi se sono persone che hanno lavorato meno. Vabbè, senta, però sulla... anche mio figlio, la no? suo figlio no. La Minetti, no. La colletta, la Minetti non ha funzionato, La colletta, la Minetti non ha funzionato, ancora lì. Mi dispiace, e rimarrà lì fino alla fine probabilmente. La colletta che lei voleva fare per mandarla via. Al di là della battuta che voi mi avete fatto fare, che aveva fatto scandalo, poi ho visto che sono ritornati persone molto più autorevoli di me quando c'è stata questa Minetti. Io mi sono permesso di dire che prima di lei ce n'erano altre di cui mi vergognavo, ecco. E chi, Minetti, chi si vergogna lei più della Minetti? Ci sono delle persone che con atteggiamenti, per esempio, no, che hanno rilevanza non estetica ma molto più sostanziale, hanno portato più discredito al PDL che non è. Cioè, per esempio, cioè, lei si vergogna più di Cosentino? È appena iniziata l'estate, già sono stato un mese zitto senza parlare. La prima volta che parlo dopo un mese siete voi, mi devo ripartire. No, non è vero, ho fatto un'intervista domani mattina. No, no, mettiamo in ordine le cose. Alcune persone del PDL sono imbarazzanti, tra molto, cui, più della molto più della Minetti. Questo è il tema. È una dichiarazione già fatta un mese fa. Quindi, appunto, vabbè, ora possiamo ragionare insieme. E io dico con gioia, anche dicendo che uno di questi è Cosentino, si può dire tranquillamente, no? Solo magari, o no? Magari non solo lui, però è uno di quelli, giusto? A lei non piace? No, a me, io dico, no, anche lei converrà che magari qualche problemino lo ha creato, o no? Direi di sì. Ma so, vede, qualche problemino in qualche modo l'ha creato chiunque abbia avuto delle vicende collegate alla magistratura. Quindi uno è lui. Giudiziarie. Diciamone due di nome, facciamo due nomi. Tutti. Ci sono alcune persone che vanno condannate, mi auguro che saranno condannate. Ci sono altre persone che probabilmente si vedranno, si capirà che sono state perseguitate. Ma chi è che si augura che venga condannato? Chi è che si augura che venga condannato, scusi? Cosa? Chi è che si augura venga condannato? Ma lasciamo perdere. Se lei dice, mi auguro... Fare il mio lavoro, no. Mi auguro che qualcuno... Ma lei è un uomo libero, può lottare come un leone. E difatti queste cose all'interno, le dico sempre. Però, ma chi è? Milanese? Bene. Lei spera che Milanese venga condannato? Chi è? Non fatemi fare nomi di persone. Li fate già voi, li fanno altri. Non faccio il... Però siamo sulla strada giusta. Situazione. Non ho capito. Cosetto, coltello tra i denti e fuori nomi. Ma le faccio un esempio banale, che sì. Non parlo di cose penali. Ho visto a Striscia la notizia, sì. Un inviato che chiedeva a Barbareschi come mai negli ultimi due anni è stato solo due volte in Parlamento. Signor Roma, sì. Roma. Sì, sì, e ho visto la reazione di Barbareschi. Sì. No? Vabbè, però non è... Questo non ha rilevanza penale, il fatto che lui non sia venuto in Parlamento, neanche la sua reazione. Ma io mi auguro che domani se ne vada, sia dal PDL che dalla Camera. Però è facile attaccare Barbareschi. No, le faccio un esempio breve, per non andare su cose più complesse che giudica la magistratura, ma per andare su cose che può giudicare un uomo normale. Bene, perché con quegli atteggiamenti, sia con quello di non venire alla Camera, sia con la reazione, butta discredito con tutti i colleghi. Ma quello sta fai film in tutto il mondo. La notizia dice, sono tutti così, vedi, non c'è dubbio. La gente che non va, si fa eleggere, non gliene frega niente. Questo non va bene. E abbiamo fatto un esempio. Perché un altro più grave qual è? Uno più grave qual è? Voi due. Uno più grave. Avete già mezz'ora che siete al telefono con me, avete un sacco di telespettatori, un sacco di gente da sentire, la roba calda sul tavolo. Ma subito, però ci faccio un altro nome. Barbareschi, d'accordo. Vabbè, l'altro Barbareschi, è Cosentino, Verdini, ne scelga uno. Verdini, che ne so. Fatemi la vostra trasmissione. Verdini, signor Verdini. Parli che Verdini. Verdini, getta discredito sul PDL, Verdini? Milanese? Verdina, la Milanese ormai. Ma tanto non ce la fate stavolta. Vabbè, la prossima sarò più libero. Vabbè. Ci divertiamo di più. Un abbraccio, a presto. Vado a mangiare. Grazie. Claudio, provincia di Perugia, buonasera. Sì, eccomi. Volevo dirvi che avete fatto benissimo a rimandare D'Agostino, perché ieri sera Boccia l'ha inchiodato proprio, per cui fate bene a rimandarlo. Ma l'ha inchiodato in che senso? L'ha inchiodato, perché cioè era via a fare l'arrogante, fare lì, qui, partito, sotto, sopra. Invece gliel'ha detto, insomma, che anche lui, che anche Boccia è della stessa risma di Casini e compagnia. Comunque, secondo me fate bene a mandarlo. E poi volevo dire questo. Non c'era un referendum chi è a favore e chi è contro, però comunque va benissimo. No, volevo dire questo. No, ma voglio dire, il problema è molto semplice. Perché lei dice che Boccia ha inchiodato D'Agostino? A me sembra il contrario, dal punto di vista dialettico. No, assolutamente. Cioè, allora, in quel momento lì Boccia stava, come dire, criticando i grillini e qui... invece, e lui ha detto che il marciume è negli altri partiti e vabbè, però è all'interno del movimento di Grillo è una piccola cosa. Va bene, però quando D'Agostino ha detto che siete tutti uguali, cioè lì per lì Boccia c'è rimasto, è stato inchiodato, dai. Cioè, ma chi è rimasto? Posso segnalarvi a tutti gli ascoltatori, a Siracusa, una notizia strepitosa. È iniziata oggi la festa del Fatto Quotidiano e Don Gallo è entrato sul palco della Versiliana col sottofondo di musica di Bandiera Rossa e ha iniziato dicendo: Padre nostro, dammi il mio Fatto Quotidiano. Il signor Don Gallo, amico Don Gallo. Mio Luigi, grazie. Giovanni da Roma, buonasera. C'è il Padre nostro. Buonasera. Dica. Buonasera. Certo, io volevo parlare veramente, se potevo andare pure il pezzo di D'Agostino, perché sarò stupendo. In altri paesi, conduzioni e soprattutto trasmissioni politiche che dicono una cosa proprio così spiccia, non andrebbero neanche prese in considerazione dalla redazione. Una trasmissione ieri a senso unico del PD con dottor Boccia Telese, che è stato già trombato dal Fatto. Ma che trombato? Ma non ho capito, ma che se n'è andato? Ma cosa dice? Ma che c'entra Formigli col PD? Parlare. Mentana che dice: sono anni che non voto più. Ragazzi, ma quello che ha detto ieri il signor D'Agostino sono verità. Cioè che cosa? Su che cosa dice lei? Che verità? Che non possono criticare loro, Grillo. Ah, questa roba qua. Vediamocelo dalla testa, è come se dico... Vabbè, adesso però, scusi... Sì, d'accordo, anch'io la penso come D'Agostino. Queste trasmissioni in altri paesi non andrebbero mai in onda. Il signor Bersani ha domesticato il suo greggio ieri, non solo ieri, perché ha domesticato. Puntata, ma lei ma che pensa che sia tutto, sia tutta una cosa telecomandata? Ma la gente la allora mandiamo a puttane l'informazione, dottor. Ma che c'entra l'informazione? Non ho capito. Perché sono un cittadino che voglio le parità. Ma io non ho capito niente. Lei ha detto che le è piaciuto l'intervento di D'Agostino ieri sera. Certo, quale pezzo? Quale pezzo? L'evento che ha detto a Formigli e compagnia bella, tesserati del PD, ha detto: ma che Formigli tesserato del PD? Ma che sta dicendo? Lei è pazzo? Che tesserato del PD? Non è un tesserato, sta con la moglie di Berlusconi, non è tesserato. Ma Boccia, chi? Ma chi? Boccia, ma cosa di chi sta con la moglie? Boccia, certo, è un parlamentare del Partito Boccia, Democratico. Fa il comunista, sta con la moglie che è del PDL. Ragazzi, beh, allora, ma che comunista Boccia, che non è mai stato comunista? Ma perché? Ma perché beve? Perché beve prima di telefonare? Perché beve? Non deve bere, fa male. Dice solo stronzate. Boccia è comunista. Ha detto Grillo col mouse, ha fatto riflettere le menti con un mouse. Questi sono mandatemi l'ambulanza, sono su. Mandatemi l'ambulanza, non ne posso più. Mandatemi l'ambulanza, dove si trova lei? No, signor Cruciano, lei deve essere onesto. No, Giovanni, ci vuole una punturina, su. Ma ci vuole una punturina, su, subito. Le chiedo scusa, ma quella è comunista, Cruciani, quell'altra scusa, è comunista. Una trasmissione così in un altro paese andrebbe in onda? Ma quale ma no, ma sarebbe quale? Chiusa una trasmissione la nostra, così dice. Che sostituisce Santoro andrebbe in onda? Ah, ma quella andrebbe in onda, ma che ne so, ma non mi interessa a me. Lo tradì un anno fa, non ci scordiamo. Chi? Santoro un anno fa il PD lo tradì. Ma che me ne frega a me? Che me ne frega a me? Sono trasmissioni che devono rispecchiare una realtà, perché il Movimento 5 Stelle farà danni eclatanti, ci saranno infarti. Infarti nel 2013. Ma lei è pazzo, non lei io sono pazzo. Guardi che la richiamo, dottor Cruciani, io la seguo. Ma che c'entra gli infarti? Mi permetto per la mia volta. Ma trasmissioni così, dottor Cruciani. Ma che hanno fatto queste trasmissioni? Mi spieghi che cosa ha fatto Formigli? Cosa ha fatto? Non ho capito. Cosa ha fatto? Ha montato una trasmissione, non è la prima. È ah, la ma seconda. Lei se la prende col fuori onda, quella roba lì del fuori onda. Ma non solo quello, ma pure l'intervento di. Ma ragazzi, ma se D'Agostino interviene, non interviene per farsi pubblicità. No, D'Agostino no. Lavora in tutto il mondo. Ma che stai dicendo? È l'unica persona che in Italia si fa. Ma che quello sta fisso a Roma oppure a Sabaudia? Ma che quale tutto il mondo? Ha detto quelle parole, ha detto. C'era anche con Casini. Ragazzi, Casini al 6% prenderà il 5%. Si permette di fare interviste come se ma non se è che si permette ma, no, che ma guardi che io secondo me da così su molte cose aveva pure ragione, però lei sta esagerando. Allora, quello è comunista, quell'altro è comunista. Giovanni, beva un po' di meno, come dice Paresso. Posso dire una cosa? Che droghe prende lei? Che droghe prende? Che non si è mai dissociato da essere di sinistra e uomo comunista. Ma chi? Dissociare un termine di brigatismo? Di Parenzo, lei l'ha vista? Lei ma l'ha vista, ma certo che l'ho vista, ma di che cosa parla? Ma di chi parla? Nel senso che parlano da sinistra per costruire. Ma chi questo? Ma qui loro parlano a nome dei politici che prima... Ma loro chi? Vabbè, mancano i soggetto, verbo e complemento oggetto. Io le chiedo anche scusa, amico mio. No, ma no, signor Parenzo, io la stimo. Giovanni, io la abbraccio fortissimo. Può, però non mi può difendere ieri la trasmissione di Formini. Ma che c'entra la trasmissione? Stiamo parlando di un'altra paese, cosa. In un altro paese non sarebbe mai andata in onda. Ma che c'è? Ma perché? D'Agostino contro Boccia, grande richiesta, sentiamo. Fatto nome, partito... a bello di mamma io Penati cazzo vuol dire Penati Roberto bello Penati vuol dire D'Agostino, qualcosa bello, però tranquilli che non siamo in un pollaio, cioè, siamo in un suo televisivo bello di papà partito, scusa bello di papà se avessi seguito i dibattiti no ascolta se avessi seguito Ceausescu ancora D'Agostino contro Boccia. È un tuo diritto. Non fare furbo. È un tuo diritto. Sei solamente un ignorante. È un tuo diritto. Va bene, però D'Agostino. Ecco perché poi la questo prego, paese Roberto, non va per nessuna parte. È un tuo la prego, diritto. Lei ha lanciato un tema importantissimo, però evitiamo di andare sulle offese. Grazie. È un tuo diritto. È ora fai che la bene. Non puoi. Siete niente. Non puoi. Non si capisce niente. Tanto è vero che c'è Monti. Grazie. No, ma è chiaro così. È chiaro così. Grazie Roberto D'Agostino. Andrà scalzo. Cosa volete? Devi solo chiedere scusa. Va bene. Bene, va bene, ma insomma però. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Ancora D'Agostino, grazie, quando saluta, oppure Grillo prende più, eccetera. Qui stiamo a parlare di uno scazzetto tra all'interno di una corrente, di un movimento che ha raggiunto nelle amministrative l'8%. Più della Lega, più di quel cazzo di Cassini che sembra che ogni volta viene intervistato come un dio. Grazie Roberto D'Agostino, è stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Pronto? Chi è? Parlato prima con Vittorio che voleva replicare a... Sentiamo. Speriamo che non insulti mia madre ancora una volta. Ah. Oila. Quando fa... Come farò? Oila. Oila. Oila. Ma se non risponde subito poi non risponde. E vabbè, stasera va così, Pronto? Vittorio? Vittorio? Sì. La zanzara. Oila. Non insultare mia madre non un'altra volta. Non cominciare adesso subito con le... Una cosa vergognosa, ha insultato mia madre. Sì, tua madre, tua zia. No, ma stai calmo su, ogni volta così, non è successo niente. Ho detto solamente una cosa sulla roba là, come si chiama, di Michiché, dai. Ma prima mi hai chiamato perché no, qualcuno... La mia considerazione, se incontro la cocaina si eccita lei. Ah, c'è questa la cosa. Uno che cocaina ne ha presa e droga ne prende tuttora è Oliviero Toscani, non c'è alcun dubbio su questo. No, adesso non... E non c'è dubbio su perché questo. Perché la presa e la continua a prendere. Ti sei arrabbiato solo perché ha detto che sei impotente. E uno che gliela dà certamente è Gian Marinaro. Cioè, c'è sicuramente un traffico, sì, sicuramente. No, non dire, non cominciare. No, io mi dissocio, la mattina, è un dato di fatto, sono pronto, lo testimonio in tribunale. Cioè, non ho lui capito, andava in automobile, con l'automobile di Gian Marinaro all'aeroporto, andava a mangiare da Gian Marinaro, quindi tutto quello che voi potete dire di cose che non sono state, o Gian Marinaro è mafioso ed è implicato anche Toscani, o non lo è come dico io, e Toscani può fare quello che voleva. Quindi partiamo da questa premessa, che lo scioglimento di Salemi è stato fatto senza nessuno indagato per vabbè parte. Questo è un altro discorso ancora con questa storia voi, certo perché ancora non puoi sciogliere un comune se non c'è nessuno ho capito per Vittorio mafia. Però adesso non stiamo parlando di questo, stiamo siccome lui è l'assessore lì e ha inventato quello che voi state dicendo, nasce da lui dal fatto che per andarsene, siccome non prendeva i soldi che chiedeva, chiedeva 3 milioni di euro alla regione, 300.000 euro alla provincia, non glieli davano, ha inventato la mafia, che è una pura invenzione di lui per andarsene con l'aria dell'eroe. E invece questo andava a pranzo con Gian Marinaro. E invece andava, frequentava Gian Marinaro anche lui? Lo frequentava, nel senso che Gian Marinaro era un politico esattamente come Cuffaro, come Lombardo, tutti indagati per mafia. Ma che c'entra la cocaina? Che c'entra la cocaina, scusa? Perché l'ho sempre preso, non c'è dubbio che prendesse droga. Ma stai dicendo così in senso metaforico oppure veramente sul serio? Questo devi chiederlo a lui, non c'è alcun dubbio. Quello che è certo è che Lombardo, Cuffaro, tutti questi sono stati indagati per mafia. Beh, Cuffaro in galera. È addirittura in galera. Cuffaro in galera. No. Allora, o noi accettiamo la premessa che non si può sciogliere un comune dove non c'è un indagato, o accettiamo che l'ottimo Toscani... Fattene una ragione, Sgarbi. È semplicemente incapace, perché uno così... Non è che ma perché ha detto questa cosa di te adesso? Che non sei fai impotente, sesso, che sei impotente, non ce la fai. Per sapere se sono potente o meno, bisogna chiedere alle persone che vengono con me. se uno vuole avere, non è molto difficile. Ma che ne sa Toscani? Scusa, che ne sa di queste cose Toscani? Vuol dire che evidentemente ha una pulsione omosessuale, per cui si immagina cose che non vede. È meglio che interroghiate Vittoria Risi che non lui sulla mia attività. Ma no, non ci interessa questo, non ci interessa. Si preoccupa di questo. Poi dico, lui è stato lì, ha fatto l'assessore, sì, ha accettato una cosa. Sì. Quello che mi fa schifo è che poi uno se ne debba andare inventando delle palle. Ma non è che ha inventato. Io ho delle cose da dire, lui non si capisce di cosa parli. No, dice che in Sicilia non si può fare niente, che c'è la mafia. Ma ha ragione, il problema non perché c'è la mafia, perché c'è la burocrazia, l'inerzia, l'assistenzialismo. Beh, anche la mafia c'è. Ma la mafia non c'è lì, c'è la mafia. Se uno è stato anche mafioso e sta fermo immobile per tre anni, non è mafioso. Cioè, quello che dico io è che la mafia non è un dato ontologico, come pare a voi, che siete dei teorici astratti e vi inventate che la mafia esiste perché esiste. La mafia è cose fatte contro qualcuno. Sì, ma scusami, se la magistratura... Se uno è stato mafioso nel 92 ed è in letargo per 20 anni... Non c'è la mafia, questo che dico io, non è che escludo lo stato d'animo, i comportamenti, la mafiosità, dico non c'è stata alcuna azione che abbia condizionato la mia attività e neanche quella di Toscani. Però scusa, se mai solo gentilezze. Vabbè, d'accordo, io non capisco perché, ma infatti Toscani non parlava di questo, Toscani parlava a un certo punto che tu sei ormai... Facciamoglielo sentire. Ormai senti, fai il dici le stesse cose... Sei un po' rincoglionito, insomma. Cosa devo dire? Dico le stesse cose perché non accetto le verità finte confezionate che inventate voi. No, le trattative, ma... tutte queste cretinate. Ma figura, io per me la trattativa non esiste, almeno dici. Ma già vedi che siamo d'accordo, però cioè, siccome lui invece vive solo di retorica e di articoli di merlo, perché è talmente capra che l'unica cosa che è capace di fare è leggere gli articoli di merlo. Ma perché parla di queste cose di sesso? Io non l'ho capito bene queste cose di sesso. Perché evidentemente ha delle pulsioni omosessuali, si inventa, che me ne frega a me del sesso suo. Dubito che con la pancia che ha possa fare qualcosa di utile, non capisco perché si preoccupa della mia attività, non capisco che cazzo gliene frega. Evidentemente ti ha visto in azione, che ne so, non è che uno si inventa così le cose. O gli hanno raccontato delle robe, non lo so, cioè, ma cosa devono raccontare? Sono i pettegolezzi che piacciono a voi, che vivete solo di pettegolezzi, due poveri cretini che vengono di pettegolezzi, appena trovano un idiota si trovano a casa loro. Ma è stato di pettegolezzi, scusami, ma è stato per caso, è stato per caso. Se mettere in discussione la tua virilità, fatto... Ma cosa me ne frega, è un argomento che è fuori discussione, cioè non si è, se non c'è uno che ti guarda, di cosa parla? Ma che ne poi, so? Che lui... ne so io della potenza o meno di Parenzo, che è presumibile che sia un nano. Ma... se sia bravissimo saranno canti suoni. No, cosa devo presumere dire? L'ho visto io. Non ma l'ho l'ha detto Toscani. No. Allora di che cazzo parla? Ma l'ha detto... di che cazzo parla? Comunque lo sai che secondo me è uno dei tuoi rivali mediatici in questo momento è Roberto D'Agostino. Sì. Roberto D'Agostino ieri sera a Piazza Pulita ha fatto uno show pazzesco. Bravo, senti, ma è uno più abbastanza intelligente. Senti che come ha salutato Formigli. A un certo punto Formigli lo saluta, deve andare via. Grazie. Senti il numero voleva mandarlo numero via. Numero uno, senti. Grazie Roberto D'Agostino. No, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Poi, detto? Grazie detto? Al cazzo, dice grazie Roberto D'Agostino, grazie al cazzo. Bravo. A un certo punto poi se l'è presa con Boccia, quello del Partito Democratico, se l'è presa con Boccia che lo criticava per le notizie che aveva lui e lo ha, secondo me alla fine poi usa sempre lo stesso linguaggio D'Agostino, però era efficace. Vabbè, comunque. Senti, ma quanti soldi spendi per sto partito nuovo che fai? Quanto ti costa sto partito? Sti quattrini, chi te li dà? Esattamente quello che spende Grillo. Cioè quanto? Chiedetelo a lui, esattamente quello che spende Grillo. No, ma noi lo chiediamo a te. Cioè, i soldi, chi te li dai? Questo nuovo buco nell'acqua, quanto ti costa? Se sia un buco nell'acqua saremo a vedere. No, voglio dire, però, se dai, sinceramente, fare la rivoluzione, cioè, tutto divertentissimo e meraviglioso. Con il vostro contributo la fermeremo, no? Più voi... e parlate in termini ridenti, meglio andrà. Ma noi sosteniamo, noi vogliamo detto, che... L'ho detto prima a Parenzo, il mio unico obiettivo, l'ho detto nell'intervallo, il mio unico obiettivo quest'anno per le elezioni è che Vittorio Sgarbi entri in Parlamento. Sì, a me ci se si non entra un po'. In Parlamento col Partito della Rivoluzione, col PDL, con chissà chi, con Grande Italia, con Italia, con lista Berlusconi, non mi interessa. L'unico obiettivo è Vittorio Sgarbi in Parlamento a fare, è già sicuro? Sì, non abbiamo problemi. Ma il problema non è cosa costa fare una campagna elettorale. Beh, in Sicilia è inutile fare qualunque cosa. E allora che te candidi a fare? Beh, infatti non mi candido. Vabbè, non ti candidi, perché fai il Partito della Rivoluzione con questo tizio che si chiama Cateno De Luca? Non mi che ricordo. È stato rinviato a giudizio. Vabbè, mi piace il nome perché uno che si chiama Cateno può essere scatenato. Cateno come la sorella di Fiorello, Catena. Però ma ci saranno anche degli incensurati oppure? Ma spero di no. spero di no, perché da questo punto di vista dovreste spiegarmi voi che state a lavorare per Digicom 24. No, non lavoriamo più. Non lavoriamo più. Vabbè, avete risolto il problema. Ma secondo voi Berlusconi non è rinviato a giudizio? Ha voglia, come è sotto processo. Allora, si candiderà Berlusconi? Sì, certo, sì. Vendola non è rinviato a giudizio? Sì, sì, assolutamente. Allora non ho capito che cazzo senta. L'altra sera quando l'idiota Parenzo faceva quel ragionamento, di cosa vuol dire rinviato a giudizio? Ho detto. Ci sono tre quarti dei candidati rinviati a giudizio. Se uno deve accettare la logica dei magistrati che devono trovare per forza la cosa dove non c'è, sì, allora non si deve candidare né Vendola. Se viene rinviato a giudizio Di Pietro per qualche ragione che non mancheremo di trovare, cosa fa? Non si candida più? Magari un conto sono gli rinviati a giudizio, un conto sono i condannati, ma in primo grado. Ma se il Catino De Luca è rinviato a giudizio per una cagata che non si capisce cosa sia, tu hai detto candido, io non candido nessuno, si candida lui. No, io non chiesto. Mi pare che dice niente di male. Ha lo stesso titolo a candidarsi di Berlusconi e di Vendola, anzi Vendola è sicuramente responsabile di quello che hanno fatto per la sanità tutti i suoi messi in galera e delle pale eoliche che invece di mettersi nel culo ha piantato nel paesaggio di tutto quello in cui la mafia trae vantaggio. Vabbè, ma perché di nuovo le pale eoliche truccano la bellissima regione Puglia. Ma ci sono dappertutto le pale eoliche, anche in Spagna, meravigliose sono. Sarà meravigliose per voi che siete culattoni, quindi diciamo benissimo. Due culattoni inculati dalle pale eoliche. No, ma dai, ma perché? Ma perché che contro le pale eoliche? Ma io sono, favore, sono stato in Spagna, io sono a favore. Sono meraviglioso. Non me ne frega me della Spagna. Ti abbraccio, ma dove stai andando? Sempre a presentare. Sempre a presentare. Ma dove sei? Vendola ha rinviato giudizio, punto. Ma dove sei? Dove sei? Che sei sempre in macchina, sempre in giro. Sto andando a fare lista ad Asolo. A fare? Asolo, sempre in giro. Ma perché vai sempre in giro? Ma stai un po' a casa, sempre in giro a Asolo. Ciao, un abbraccio. Ciao, con tutti, finocchi, rotti in culo. Ciao. Eccoci qui, 800-24-0024, la Zanzara prosegue, lotta e combatte insieme a voi ogni sera fino al venerdì. Ah, ma oggi è venerdì. Oggi è venerdì, sì. Luigi da Caserta, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, vi faccio io pure della trasmissione, che è una bella trasmissione, però ve le devo dire una cosa, se la posso dire, che c'è un pappagallo nel sud che è fuori luogo. Ma chi è il pappagallo? Parenzo, oddio, ancora. Parenzo, non fa altro che un pappagallo, le cose che dice Cruciani e poi non mi risulta, non dice niente di concreto, non mi risulta. Comunque le faccio capire, poco fa ha chiamato un signore, si è permesso di dire hai bevuto, non chiamare, almeno lui ha l'attenuante che ha bevuto e dice stronzate, mentre Parenzo le dice anche se non beve. Beh, appunto, quindi se almeno si da sobrio lui si farebbe dare una cassetta a Radio 24 e si vede vede le parole che dice, si dovrebbe vergognare. Perché a chi si andiamo va avanti, su, come andiamo si, avanti. Come si chiama lei? Come si Io chiama? Mi chiamo Luigi. Luigi da dove? Sì, da Caserta. Luigi, come Luigi la Porpetta. Se vengo, se vengo. Sono solo battute stronzate. Lei ha detto. Se vengo a Caserta, mi stia a sentire Luigi. Luigi, mi ascolti un secondo. Luigi, io. Mi può far parlare un po'? Forse la settimana prossima devo venire a Caserta. Se vengo a Caserta, mi autorizza a chiedere il numero alla radio? La vengo a trovare a casa? Stiamo no, insieme. No, io vengo proprio dove sta. Io posso tutta venire proprio dove lei sta. Io voglio stare con lei tutta la sera. Programma e offende le persone. Sì, io voglio stare con lei tutta la sera se vengo a Caserta. Lei offende le persone, non va bene. Ma io voglio stare con lei tutta la sera. Ah, signore di prima, io avevo chiamato per un'altra cosa, per il fatto che il politico che c'era prima, che a lei ha detto, io sento il ritorno perché non parlo bene. Mm. Il fatto che qui a Napoli abbiamo quel signore del PDL che è sotto inchiesta, lei lo dice spesso, ma noi abbiamo avuto Bassolini che ci ha rovinato, non è nemmeno partito. Vabbè, ma che c'è? Una causa per lui, no? Non se ne parla. Ma come? Vabbè. All'epoca ne parlava. Luigi, adesso la liquido. No, non ne parlate ma adesso, per adesso la liquido. Francesco da Foggia, buonasera. Ne parlammo. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Niente, io volevo dire semplicemente una cosa. Io ho votato per diversi partiti durante, diciamo, la mia vita elettorale. Questa volta voterò per il Movimento 5 Stelle, perché questi politici che abbiamo sono solo dei ladri, dei estofanti e devono andare a casa. Solo questo volevo dire. Ecco. Cioè, che non ho capito bene, scusi? Ladri e le stefanti. Dico che il mio è un voto di protesta, perché questa classe politica che ci sta rappresentando, che ci dovrebbe rappresentare, è una classe politica incompetente, incapace, che deve semplicemente andare a casa. E noi dovremmo essere uniti tutti a mandarli via, perché ormai hanno rovinato l'Italia. Così, secco, così. Devono andare tutti a casa. Tu, ma chi deve andare a casa? Tutti, perché sia chi ha governato e sia chi è stato all'opposizione non hanno fatto quello che era l'interesse del paese. Io viaggio spesso, vado all'estero e vedo che quello che succede in Italia, quello che l'Italia oggi è diventato, è qualcosa veramente di raccapricciante rispetto alle altre realtà europee. E dunque lei voterà per Grillo? Io voterò per Grillo, anche perché inizialmente io avevo intenzione proprio di non votare, perché secondo me il partito del non voto è quello che dovrebbe dare il segnale forte, però non votando non si dà un'alternativa. Vabbè, ecco, grazie. Voterò per Grillo. Grazie. Prego. Antonietta da Reggio Emilia, buonasera. Ah, buonasera. Dica. Io sono la madre di un ragazzo paraplegico, volevo fare un intervento in proposito a quello che ha detto Oliverio Toscani in merito alle Paralimpiadi. Allora, io sono la madre di un ragazzo paraplegico che è rimasto paraplegico a seguito di un incidente in moto, 17 anni, ha partecipato alle Paralimpiadi di Pechino. Bene. Sì, bello. Ecco, io vorrei sapere cosa direbbe Toscani nel caso gli capitasse un fatto analogo, a uno dei suoi figli e che decidesse di fare dello sport e partecipare. Mi piacerebbe, ecco, così nella vita tutto succede nella questa vita. Ragione, mi piacerebbe sapere che cosa direbbe in proposito. Bisognerebbe trovarsi in quella situazione. Però non ha detto, ha detto che non bisognerebbe fare le Paralimpiadi perché non gli piace la competizione tra persone disabili, così ha detto. E perché? Perché? Vabbè, ma perché? Non è che ha detto niente di particolare. No, sì, ma perché le Paralimpiadi? Non ho capito, scusi. Ma perché tra persone disabili? Perché? Beh, perché sono le Paralimpiadi, sono tra persone disabili. Sì, ma per quale motivo? Perché hanno avuto un disabile non può competere. Ma infatti non sono d'accordo. Cioè, non sono d'accordo. Ma io quando si toccano questi argomenti piuttosto delicati, è vero. Secondo me bisognerebbe pensarci un attimino prima di fare queste affermazioni. Io penso. Su questo ha ragione. Me è un argomento delicato. Ha ragione. Anzi, solo quello era uno sfogo. Ma ha fatto benissimo, perché è un motivo di orgoglio. È un'esplosione di vita per molti, anzi, è una ragione di vita. È vero, ha ragione. Lui è rinato con quello e poi ha scelto anche di fare altro nella vita. No, in questo caso ha ragione. Quando la signora dice bisognerebbe trovarsi in alcune situazioni prima di parlare, in questo caso ha perfettamente ragione. Sì. Cioè, non si può salire su un podio e dire stronzate senza vivere una situazione. Questo è vero, su questo ha ragione. Grazie, volevo Antonietta, grazie. Sì, grazie a voi. Guardi, viva le Paralimpiadi. Per me, anche se c'è la competizione... No, anzi, proprio perché c'è la competizione... Non capisco quale sia il problema di una competizione tra persone che hanno avuto vari gradi di disabilità. Cioè, c'è la competizione, allora c'è vita, c'è speranza. C'è ambizione, c'è passione, come per le persone che non hanno avuto questo tipo di problemi. Dunque tutte queste discussioni, farle, non farle, perché mi fa schifo vederle, quelli in carrozzina, Bolt, sono tutte discussioni inutili, filosofiche e anche sgradevoli, ma non sgradevoli, non lo so, sì, uno la pensa come no, uguale. No, alle volte bisogna mettere una barriera, l'asticella non la si può sempre abbassare, a volte bisogna dire, ma non perché è politicamente corretto, non per quello, perché sono cose sono volgari. Pino da Como, buonasera. Pino. Non le parolacce. Sono qua. Quelle sono cose. Vada. Sì, innanzitutto, solita frase di rito, complimenti per la trasmissione. Un complimento in particolare perché mi sembra una via di mezzo tra il male e per certi aspetti anche il vernacoliere in via radio, anche se naturalmente più dotto e comunque il più bel programma di satira che c'è in questo paese. Mi diverto molto a sentirlo ogni sera. Bene, grazie. Allora, dica. Una prima battuta velocemente sui gay, visto che se ne parla spesso. Che battuta è? Ultimamente, no, a me sono molto simpatici. Ma non è che sono una setta, mi sono simpatici i gay. No, aspetta, mi faccio finire il concetto. Mi sono stati sempre simpatici, tengo. Ma ci saranno anche dei gay creativi, tutto quello che vuole. Mi è sempre piaciuto anche la loro trasgressività. Ma non tutti sono trasgressivi. Da quando dicono che vogliono anche loro sposarsi, quindi diventare normale, omologarsi a tutte le coppie eterosessuali, mi fanno un attimino cagare, ecco, scusi il termine. Cioè, un non po'. Ho capito, no, scusa. Mi perdono di... No, no, ma dice delle cose bestiali, dice mi stanno simpatici, sono, ma mica tutti, non sono una categoria, come dire, omogenea, con un comportamento, no, sono persone. Una categoria, anche lei è simpatico, Parenzo, ma cosa c'entra? Ma lei ha detto... Siamo tutti una categoria nel nostro genere. Lei purtroppo, lei purtroppo, avendo due neuroni, quando verso sera beve, se uno si brucia e rimane uno solo, quello che è da solo è lì che gira così, in cerca dell'altro. E lei dice delle cose sconnesse. Il concetto di fondo è che dice delle cose sconnesse, perché lei non può dire i gay sono trasgressivi, perché ci saranno gay trasgressivi e gay non trasgressivi, così come esistono eterosessuali trasgressivi ed eterosessuali non trasgressivi. Ma che... adesso che vogliono andare anche loro a sposare con tutte le famiglie, vabbè, allora... normali, poi adottare bambini, andare col carrozzino e cose, mi fanno perdere del loro fascino, cioè io l'ho sempre... mi sono sempre piaciuti tantissimo per questo, ma non è che sei anticonformista. Adesso io ma non è che la categoria dei gay è necessariamente anticonformista, ci sono quelli anticonformisti, quelli conformisti, quelli che la pensano in un modo, quelli che la pensano in un altro, cioè non c'è la categoria omogenea gay, cioè sono persone come lei, come me, come Parenzo, eccetera, ognuno con le sue idee, ognuno con le sue opinioni. Ma di che stiamo parlando? Di che parliamo? Passiamo all'altro argomento. Ma che altro argomento? Ma non è lei che decide, cioè, passiamo all'altro argomento. Non è così. Quale, cioè, sarebbe l'altro argomento, peraltro? Quale sarebbe l'altro argomento? Posso dire un'altra cosa? Sì, sì, quale sarebbe l'altra cosa? Era sulla vicenda, ho sentito anche io la trasmissione ieri, sì, dove sono state le dichiarazioni del consigliere regionale del 5 Stelle, sì, sì. Allora? Ma io non trovo nessuno scandalo che, voglio dire, ci sia un movimento con un leader carismatico che ha dietro, sì, una persona o uno staff, sì, di persone che esperte di comunicazione, di multimedialità, eccetera. Sì, ma qui l'accusa è diversa, l'accusa è che lui guidi... Non capisco dove è lo scandalo. Cioè, no, ma lo scandalo non è questo, allora Pino. Se il PD hanno il loro... Ho capito, ma l'accusa è un'altra. C'è dietro Casaleggio, sì, e altri che sono esperti, gli danno i consigli, ecco, dov'è lo scandalo? Ma infatti anch'io lo dico, cioè non c'è nessuno scandalo e mi stupisce che persone come Favia e altri se ne rendano conto solo adesso di questa roba qua. Cioè, probabilmente sono stati disattenti o nel frattempo... Ma no, non lo so, è perché evidentemente ci sono altri motivi. Una volta eletta probabilmente sono diventate a loro volta, non voglio dire una carta loro, però... che sono diventati gli elettocratici, cioè una volta eletto eletto rivendicano magari uno spazio che dentro quel movimento, uno spazio, diciamo, di scelte che dentro quel movimento è difficile avere perché comandano sostanzialmente due persone. Io dico che secondo me in una fase, cioè comandano due persone funziona solo così, funziona, c'è rete, la dittatura, sicuramente la rete, ma non me ne frega niente a me della rete. Votate in rete ancora con queste buffonate. Sono delle buffonate. Ma quale rete? Ma chi controlla chi vota e chi no? Ma quale democrazia del futuro? La buffonata del futuro, ma la democrazia del futuro. Ma che la buffonata sono i partiti che si mettono quattro persone davanti al caminetto e decidono tutto. Senta, Pino da Como, la scelta della rete è una buffonata. Comandano due persone, una si chiama Grillo e l'altra si chiama Casaleggio. Le decisioni vengono presi a livello di base. Ma quale base? Ma che sta dicendo? Ma quale base? Ma non scherziamo. Il partito dei pirati c'è addirittura uno strumento ancora più sofisticato che dice feedback, dove tutti entrano dentro, avviano discussioni. Ma quali discussioni? Ma quale partito del web? Non diciamo stronzate. Le decisioni le prendono due persone, una si chiama Grillo e l'altra Casaleggio. Allora è giusto che sia così? No, ma se è così è giusto che, ma che se fosse così sarebbe una truffa. Perché lui invece ha fondato la constituency di questo movimento sulla partecipazione dal basso. Ma sì, e ora queste si sono scopre tutte parole che, non... che parole, perché magari chi li vota ci crede davvero, i militanti ci credono davvero, poi si scontrano con i due e ora infatti sta scoppiando il movimento. Bene, Antonio da Brescia, buonasera. Thank you. Antonio, dica. Non, pronto? Dica. Allora, stavo dicendo, ho parlato allora in vano fino adesso. Allora, vi stavo dicendo, cambiando un attimo discorso, mi sembra di vivere in una nazione dove chi della dialettica assolutamente sconcia, come ha fatto Sgarbi prima con voi, mi dispiace che voi non l'abbiate messo in fila, o fate parte della stessa casta che fa parte lui. Infatti questo abbracci finali mi è sembrato illogico da parte vostra. Beh, a parte questa roba, forse perché siete colleghi giornalisti. No, non è giornalista Sgarbi. Vabbè, ma in ogni caso queste modalità di rapportarsi con le altre persone non mi piace. Vabbè, non le piace, pazienza, che dobbiamo fare? Sì, vabbè, ma anche voi stessi, forse perché vi fa audience Sgarbi, forse voi stessi dovevate rispondere in modo più adeguato. In ogni caso, queste stesse persone, tipo Moggi, tipo Fede, e tipo tante altre persone inquisite, noi le troviamo tranquillamente inquisite in televisione, condannate. Beh, vabbè, questo, sì, dove sparano a zero su giudici o altri che possono essere onesti o meno, ma questo non mi interessa. Fatto sta che loro hanno avuto una sentenza in giudicato, sì, e quindi passati in giudicato e si trovano lì a sentenziare, vabbè, su tante altre persone. E l'Italia, cioè l'Italia, le persone che si reputano mediamente oneste, come mi posso reputare io, mi devo ritrovare a sentire queste persone con i giornalisti, con i giornalisti più o meno compiacenti, che solo che questi gli riempiono probabilmente anche la modalità, l'audience, che fanno audience, con i giornalisti più o meno compiacenti. Che danno l'ok alle loro. Va bene, ragazze. Antonio, la ringrazio. Emilio da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Adesso non vorrei intromettermi troppo sulla discussione di prima, che il finale, nel finale proprio si parlava della democrazia diretta integrale. Che la diciamo, democrazia diretta integrale. È il motivo fondante per cui, teoricamente, chiaramente dialogando con i blogger all'interno del blog di Beppe Grillo, quello che si vince è che il motivo fondante del Movimento 5 Stelle è la cosiddetta democrazia diretta integrale, di ispirazione diciamo svizzera, dove in realtà è parziale. E quello che mi stupisce è che è stata fatta una domanda nella trasmissione di ieri sera, perché Beppe e Casaleggio stanno facendo quello che stanno facendo. A questa domanda ha risposto in collegamento esterno, non mi ricordo più che chi fosse, l'ha detto Beppe. Ma non ho capito, scusi Emilio, di che stiamo parlando? Il perché non si parla in nessun modo attraverso la stampa. Di media, che cosa? Dell'obiettivo del movimento. Ma, non è vero, a parte che è meglio che non se ne parli, perché altrimenti qualche problema ci sarebbe anche sul famoso programma. Sul famoso programma. Ma non è il programma, è la domanda, è la risposta del perché si fa questo. Qualcuno l'ha detto Grillo, riprendiamoci l'Italia, è il potere. Sì, no, per cambiare la testa delle persone, è tutta una specie di rivoluzione copernicana alla Pol Pot. Insomma. Esatto. Sì. Quel video che è stato accennato di Gaia, ormai è ben Vabbè, noto. Emilio, però dove vuole arrivare lei? Non ho capito. Non comprendo perché si sottovaluti così tanto qual è l'obiettivo principale del movimento, che è quello che sostiene tutti i grillini. I grillini votano per questo motivo. Ma quando mai? Questo è quello che si dice nel blog. Grazie Emilio, non ho capito nulla. Gianni da Benevento, buonasera. Un po' confuso. Buonasera. Dica. Scusa, io volevo dire, visto che si sente parlare molto di Beppe Grillo, no? Allora io ho chiesto prima, no? L24 è un giornale, il Sole 24 Ore, è un giornale filo governativo, no? Ma che ne so, filo governativo rispetto a che? Non lo so. Cioè... Rispetto a Beppe Grillo, che non c'ha nessun appoggio di un giornale, a differenza degli altri partiti, no? Che sono oggi al governo. Sì. Che sono di destra, di sinistra, ma che appoggiano da giornale di destra, di sinistra. Fino ad oggi il Movimento 5 Stelle non è appoggiato da nessun partito, quindi questa è una realtà. Beh, no, è un partito, è un partito, e dunque un movimento, un partito difficile sia appoggiato da un altro partito. No, non è alleato con nessuno. Allora Gianni, di che sta parlando lei? No, arrivo subito alla conclusione. Allora, volevo dire, questa è una realtà che nessuno vuole ammettere. Io dai sondaggi che sento, da Radio 1, Radio 24, le radio più importanti, cioè Beppe Grillo è 2013, prende una banca di voti, prende Beppe Grillo, ha capito? Perché Beppe Grillo, per esempio Beppe Grillo dice, ma per 5 Stelle è l'unico partito quello che oggi dice la verità attuale di quello che succede al governo. Ievate Iervino. Per questo ma lei è seduto in un bar per caso? Come? No, dico, è seduto al bar, sta bevendosi un'ombra, come si dice in Veneto? No, forse è lei come dice no. Qualcuno precedentemente che ogni tanto beve. Sì, no, va bene Gianni. Ma io lo reggo però. A differenza sua, lo reggo. Quando sento il giornale e tutto quanto, praticamente sì. di quello che dice Beppe Grillo non sento un cazzo. Va bene. Mi scusi la parola. No, però prego. Perché non volete ammettere la realtà di quello però che è Beppe Grillo? Beva acqua la prossima volta. Marco perché da Firenze, no. Buonasera. Se uno non lo regge, dai. Pronto? Vada. Eccomi. No, io volevo parlare seriamente della figura di Matteo Renzi, che conosco, sì, bene. Che è un ragazzo intelligentissimo, ambiziosissimo, come dice Oliverio Toscani, che conosco per interposta persona, perché Oliverio Toscani tutti è stato ospite di Firenze per un bel po' di tempo. Allora? Però diciamo che a Firenze c'è un po' deluso Matteo Renzi, ecco. Non lo so, questo lo giudicheranno gli elettori se mai si ripresenterà alle elezioni. No, io sono fiorentino. Ha deluso lei, non è che ha deluso Firenze. Come fa a dire? Ma lei è interprete di Firenze e portavoce sono dei fiorentini? No, io sono un professionista. Allora? Io quelli che con cui parlo, insomma, che hanno votato Matteo Renzi sono delusi da Renzi. Diciamo no, più che altro perché aveva detto che lui da Firenze non si sarebbe mai mosso. Vabbè, non l'avrà detto così, non è che ha detto. No, l'ha detto, mi permetto di dire, ma io guardi, quello che dice Renzi lo condivido non al 100%, al 200%. Però D'Alema dovrebbe levarsi, Rosi Bindi, figuriamoci. Però dice faccia il sindaco, dice questo cittadino di Firenze. Faccia il sindaco. È legittimo questo. Sì, no, ma questo è legittimo che lei lo dica, se l'ha votato è legittimo che pretenda che Renzi rimanga. Preferivo che Matteo Renzi finisse il suo mandato, anche perché ora Firenze è un po' abbandonata a se stessa. Lo dico perché sì, no, ma questo è legittimo dirlo, perché è impressione, benissimo. E voi fate bene, anche mi sembra che voi facciate un po' il tifo per Matteo Renzi. Parenzo se ne frega. Vede, è più del PD il signor Cruciani del sottoscritto. Io faccio il tifo e ho già detto, come ieri lo ripeto, l'ho anche scritto su Twitter, che se sarà possibile andrò alle primarie del Partito Democratico a votare per Matteo Renzi. Io non so se voterò alle primarie. Io ho saputo a Firenze che quando lui si presentò alle primarie per il sindaco contro Pistelli, lo conosce, no? Sì, come Lapo Pistelli, certo. Tanta gente di mia conoscenza di destra andarono a votare. Vabbè, ma non c'è niente di strano aprire ad altri. Uno deve catturare voti, non perderli. Vabbè, ma non sono primarie del centro-sinistra. Qui furono inquinate da tanti elettori di centro-destra. Forse perché Galli era stato messo lì apposta per non dar noia a Renzi. Opera di Verdini. Grazie Marco, grazie. Adesso attribuire a Verdini. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Tanto siete finiti voi, finiti. Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Urban Forum. Radio 24. La passione si sente.